già partito, ho già dato mandato all'avvocato di farle sequestrare la casa. Le verrà signorata la casa per gli insulti. Tu dovresti essere al manicomio criminale, dovresti essere. Le verrà pignorata la casa per gli insulti che mi ha fatto. Oppure dovresti essere a Bacau. Io la inviterò a cena, con i soldi che le prendo per le sue ingiurie. Io la inviterò a cena. Te l'ho già detto, coglione, te l'ho già detto. Io non posseggo nulla, che cosa mi porti via che non ho nulla di mio? Coglione! Cosa mi porti via? Poverino, è talmente sopra le righe che evidentemente... Tu non sei realista. C'è un problema nel Servizio Sanitario Nazionale di Mantova, perché un demente simile. Prima non deve neanche circolare uno così. Mauro, io non capisco, però Marco Benedetto, lei fermo. È un poveretto malato, ma grave anche. Fermi tutti, non capisco che cosa ha fatto però Parenzo Mauro, e lei lo sta attaccando come un matto, ma cosa ha fatto di concreto? Esiste. Intanto c'è un dramma in corso, quello di un grillino che si chiama Alessio Tacconi. Alessio Tacconi è un grillino eletto all'estero, Alessio Tacconi, in Svizzera, il quale ha dei problemi di denaro. Come sapete, il denaro è stata la cifra su cui hanno vissuto, dal punto di vista politico, i grillini fino adesso. Questa cosa maniacale della restituzione fino all'ultimo centesimo, nel bene o nel male, dico, E allora questo Alessio Tacconi non può restituire tanti soldi. Perché non li può restituire questi soldi? Perché li servono per campare, per andare dalla Svizzera all'Italia. Uno poteva dire, cioè gli può dire, beh, ma lei lo sapeva prima. E infatti quello avrebbe dovuto saperlo prima, il signor Alessio Tacconi, che c'era questo rigore. E dunque dice, io non restituisco nessun soldo della diaria. Questa volta ha restituito zero come diaria, prossimo mese magari restituirà di più. Ripeto, io ho restituito zero perché effettivamente ho sostenuto delle spese che sono state rendicontate. Vado a stare svegli per amare. Abbiamo con noi, e lo saluto, lo ringrazio, Riccardo Scamarcio, buonasera. Buonasera. Come stai? Buonasera. Come stai? Bene, bene, tutto bene. Te grazie. La cavi? Voi come state? Te la cavi? Sì, io sono orfano del mio... Tu hai mai lavorato in coppia? Cioè, hai mai lavorato con qualcuno, proprio dal punto di vista artistico, no? Hai mai lavorato con qualcuno e a un certo punto hai detto, beh, io senza questa persona mi sento un po' abbandonato, mi sento perso, perduto, o no? Ti è mai successo? Beh, ogni qualvolta si fa un film, in qualche modo, diciamo... Si prova questa sensazione, in genere avviene nel rapporto tra l'attore e il regista, oppure con un partner. Ma ti sei mai sentito nel lavoro perduto? Cioè ti manca qualcosa accanto, una tua costola, e dunque ti sembra quasi di rendere di meno, non so come dirti, no? Veramente io sto vivendo un dramma in qualche giorno. Ti riferisci all'assenza del tuo collega? All'assenza di Parenzo, sì, mi riferisco all'assenza di Parenzo che fa questo programma per la Rai, vabbè, insomma. Quindi ti ha lasciato solo, come facciamo adesso? Io ma no, ma posso tu non... aiutarti in qualche modo? Mi puoi aiutare a rendere frizzante questa trasmissione? Per un quarto d'ora puoi aiutarmi, dai, a rendere frizzante il tutto. Innanzitutto vorrei capire una cosa, questo governo, parliamo un po' di politica, perché in questa trasmissione si parla soprattutto di politica, certo, poi mi dici certo. Cosa stai facendo, io non ti vedo più da nessuna parte, prima ti vedevo sempre al cinema, adesso non ti vedo più da nessuna parte, oppure sono io che non vado al cinema? No, sicuramente sei tu che non vai al cinema, questo sono sicuro, ma sai come ogni tanto eclissarsi fa bene. Fa bene, sì. Beh, certo, perché se stai sempre sulla scena poi non hai più niente da dare, ogni tanto devi vivere la tua vita, fare delle riflessioni e poi ritornare, certo, per dire delle cose che hai capito nell'assenza. Allora è vero che ti sei un po' eclissato? No, assolutamente, ho perso un po' di tempo, mica tanto. Diciamo, mi sono un po' occupato di produzione in quest'ultimo periodo. Ho capito. Senti una cosa, stai tornando, non mi devo preoccupare, sì. No, meno male. Senti, ma tu questo governo delle grandi intese te fa un po' schifo, dilla tutta, perché io lo so che ti fa schifo, però lo devi dire proprio facendolo uscire dal cuore. Ma guarda, no, ma mi fa schifo, diciamo, una parola un po' fortina che non mi piace. Beh, a noi piacciono le parole forti, diciamo, però... Diciamo che non capisco che cosa stia succedendo veramente. Mi sembra anche un po' paradossale, cioè che due partiti sì. che sino a ieri se ne sono dette di tutti i colori, poi improvvisamente facciano... E infatti fanno un cazzo, però. Infatti... Il governo, questo lo dici tu. E questo lo dico io. Perché immagino che stanno... No, ma, se, ma magari non facessero un cazzo, io credo che cioè fanno male, qualcosa la fanno, però non mi sembra oggi che queste cose stiano producendo veramente dei miglioramenti. O no? Ma tu chi hai votato? Sell o sbaglio? Endola, chi hai votato? Boh. Ma vabbè, comunque PD, vabbè, ma è mica un crimine, devi dire. Per... No, no, però come si dice, il voto è segreto, no? Se vabbè, uno... però questo qua non me l'aspetto, dai, non può essere così banale. No, ma io ho votato Grillo, l'ho detto che ho votato Grillo, l'ho confermato, io sono molto più esposto di te, non ti credere, non è che tu basta che dici che non hai votato per me. Non è una questione di esposizione, perché poi lo sai tu pensi di essere più esposto di me, io invece sono molto più esposto di te, questo te lo garantisco. Però, no, è vero, perché nel tuo lavoro potresti avere più problemi di quanti posso avere. Detto questo, diciamo, no, nel senso che intanto sono più conosciuto di te, per cui diciamo. Vabbè, questo che ne sai, scusa? No, questo te lo dico io. Che ne sai? Che c'hai un coso? Che c'hai un rilevatore? Che c'hai? Ma non è questione di essere conosciuti. Cerchi, però, dai, te le cerchi, hai ragione, bravo. Hai risposto bene, hai risposto benissimo. Dai, però andiamo avanti. No, però è vero o no che se un attore dice oggi che ha votato Berlusconi un po' di problemi nel tuo mondo ce li ha? No. Non è vero. Ma non lo so, non credo. Per esempio, Barbareschi ha sempre fatto il piagnina da questo punto di vista. Barbareschi, non lo conosci nemmeno? Sì, lo conosco. Non lo poco. Conosco. No, lo conosco, l'ho visto, cioè ci conosciamo, qualche volta l'ho incontrato all'aeroporto, abbiamo scambiato delle parole. No, ma veramente dico, non sto mentendo. Non stai facendo l'ironia su Barbareschi, no, attore, diciamo. No, è vero. Senti, ma hai visto quel leghista che ha detto in aula una cosa meravigliosa di teatrale, cinematografica? Ormai spesso la politica ci regala queste cose, no? Ha parlato di sodomia e libertà verso il partito di Vendola. Buon anno, detto da noi buon anno. Non hai avuto contezza, no, di questa cosa? Non ho avuto contezza. Va bene, abbiamo il traffico, torniamo subito con Scamarcio che sto cercando di rendere frizzante e lo renderò frizzante rompendogli un po' i coglioni su una cosa, tra poco. Quando mi vuoi chiamare, Giuseppe, io sono sempre a tua disposizione. La Zanzara. Oh, a proposito di atmosfera frizzante, sentite il signor Cicchitto. Fabrizio Cicchitto, peccato che non c'è Parenzo stasera, sennò dicevo qualcosa su Fabrizio Cicchitto o facevo una piccola imitazione. Comunque è ancora nostalgia mi attanaglia, ma dopo cercherò di richiamarlo. Santanchè rende l'atmosfera più frizzante, cioè la caratura politica della Santanchè viene ristretta da Cicchitto nel rendere l'atmosfera più frizzante. Cioè, secondo Cicchitto, la caratura politica della Santanchè, che alle 19:40 sarà ospite qui alla Zanzara per dirci tutto sulla vicenda della vicepresidenza, è rendere l'atmosfera frizzante. La funzione, diciamo così, di segretario, secondo me, deve essere fatta da Alfano, il leader è Berlusconi, la Santanchè è un personaggio significativo che polarizza e svolge un ruolo dinamico, per certi aspetti, diciamo così, rende l'atmosfera più frizzante. Cioè, voleva dire che serve solo a fare casino nelle trasmissioni, eccetera. Riccardo Scamarcio è con noi. L'ha detto veramente, ma io pensavo fosse, diciamo, no, ce l'ha detto proprio. Ma l'ha detto così, ma sì, guarda. Pensavo, facevo un ragionamento serio, mi sembrava. Sì, facevo un ragionamento serio, Cicchitto, dicendo, ma guarda che là dentro si stanno scannando pure là, e nel PD pure si scannano, si dividono, Renzi, tutta questa discussione assurda sulle regole che la gente non capisce. Tu che sei di sinistra, perché diciamo la verità, tu sei di sinistra un po', la capisci questa discussione sulle regole del PD, la segreteria, è una roba assurda o no? Ma sì, non ho seguito tantissimo la questione, ma sì, mi sembra un po' paradossale, nel senso che... Vabbè, il PD è di sinistra. Ah, quello pure interessante, sì. Questa è, diciamo, una riflessione così... È una riflessione così secca che una però... Una domanda che il butto lì... Ci sarebbe... Che le politiche di questi ultimi anni fatte dal PD non mi sembrano, cioè sono tutte anti-Stato, no? Senti una cosa, ma chi vota, chi ancora vota per Berlusconi, secondo te, cosa ha nella testa? Ma vabbè, però manco su questo devo rispondere, Ricca. No, mi viene da ridere. Perché? Perché ho avuto un'immagine, diciamo, mi sia. No, ma credo che guarda. Credo che Berlusconi. Che immagine ha avuto? Scusa. No, lascia stare. No, è che lascia stare, lascia stare. No, vabbè, lasciamo, bisogna, il mistero è importante, non bisogna, che se siamo troppo espliciti. Che immagine ha avuto? Che c'è avuto? Con i lenti, con, diciamo, la cialtroneria e la cafonaggine che ormai aleggia. Però un po' cialtroni bisogna, per esempio la fidanzata di Berlusconi. Ho capito, però non mi puoi fare una domanda su Berlusconi, mi chiedi di essere cialtrone, scusami. No, non posso darti una risposta cialtrona se mi fai una domanda su Berlusconi. No, ti ho detto, chi ancora vota per Berlusconi, secondo te che cosa c'ha in testa questo? Non lo so che c'è in testa, si vede che c'è in testa la stessa cosa che c'è in testa Berlusconi. Cioè? Che ne so io. E che c'ha in testa Berlusconi secondo te? E che ne so io, non l'ho mai votato. Che c'ha in testa? Quindi non ce l'ho. Diciamolo. Ma magari ce l'ho pure io. Che ah, se quello ce l'abbiamo tutti. Vabbè, non è allora, che adesso, dai. Quindi diciamo è più facile riconoscersi in questi, diciamo, semplici pensieri piuttosto che, ma una volta eri più che eri in più, altri che ne eri, so una volta eri più incisivo tu una volta eri più incisivo, dicevi che Berlusconi voleva annientare le istituzioni dell'Italia. Sei diventato più moderato. Ma no, non è che sono moderato, no, è che io non voglio, mi sono scocciato anche un po' di essere, di lanciare epiteti, di lanciare, non voglio più, come dire, prestarmi a questo tipo di conversazione dicendo chi ha fatto, anche perché sono talmente deluso, no? Sì. Cioè, praticamente per anni mi sono... Ma sempre Grillo ti ha deluso? Grillo ti ha deluso? Ti aveva, beh, sei stato un po' anche Grillo in qualche modo, diciamo, in un certo modo, sì... Un po' sì, devo dire, un pochino, però appunto... Non ci credevi nemmeno prima? No, beh, per un attimo ho pensato che... Però il problema principale di Grillo credo che sia, diciamo, una specie di dicotomia che sta proprio al centro del suo pensiero. Cioè lui sostiene che il futuro democratico di un paese debba passare attraverso la comunicazione interattiva, quindi internet invece tu... E invece, diciamo, quando lui i suoi consensi li ha ottenuti usando il teatro, la piazza, quindi c'è un problema proprio nel cuore del pensiero di Grillo, che io non condivido purtroppo, cioè io non credo che un elettrodomestico possa, diciamo, decidere della vita delle persone. Ecco. Ma tu ci hai mai pensato ad andare via dall'Italia, no? No, non ci penso minimamente. E quelli che lo dicono? Non mi vado. Ma per carità, come hai detto prima, sei famosissimo. Senti, ma il presidente della Camera, Boldrini, no? Hai visto sono famosissimo. No, sei più famoso di me, lo so, dai. Vai. Il presidente della Camera... Beh sì, certo, è andato di fatto. Il presidente della Camera, Boldrini, hai visto che non è andata lì, l'ha invitata Marchionne? Ha fatto bene, secondo te? Per me è malissimo. Secondo te ha fatto male la Boldrini? Sì, Boldrini, no, Boldrini è un altro. Boldrini, sì, scusami, Boldrini è quell'altro. È quello di... La Boldrini, guarda, no, ma io credo che, diciamo, la versione ufficiale mi sembra di capire che non poteva, insomma, che non può andarci perché aveva un altro impegno istituzionale. Ma no, ma non c'è voluto andare, ha fatto tutto... A raccordo di questa comunicazione mi sembra di capire che abbia detto delle cose che condivido, sinceramente, cioè il fatto che... insomma, non è che si può rilanciare l'economia dell'industria umiliando i diritti dei lavoratori, e quindi ho capito, ha fatto bene o ha fatto male? Perché qui uno secondo l'invita... me ha fatto bene, se non era impegnata non poteva, è il presidente della Camera, è il presidente della Camera, cioè, c'ha altri impegni, non è il presidente della FIOM, però. Sì, ma ha capito, ma l'invito del presidente della Fiat è importante, andare in una fabbrica, lui fa tutto un discorso contro la Fiat, cioè, non è bellissimo, dai, su. No, ma io, a te ti sta sulle palle Marchionne, ti sta sulle palle Marchionne, diciamo la verità. A me mi sta sulle palle, ma io non lo conosco, perché mi dovrebbe Ma così, per quello che dice, per quello che pensa, mica lui in quanto Marchionne, dico. No, mi sta simpatico perché invece Crozzalo, diciamo, me lo rende simpatico. Giusto per quello. Così. Va bene, ciao, grazie, ciao Riccardo, a presto. Grazie. Ciao. Danzano come zanzare queste ombre. La strada. E intanto i saggi cosa fanno? Pensano, loro pensano, i saggi pensano. Che cosa fanno queste persone? Pensiamo, il pensiero è un'attività libera, pensiamo, è legittimo pensare o no? E siccome non siamo retribuiti, possiamo pensare gratuitamente o no? Sì, questa è la domanda, sì, molto semplice. La domanda, però, la controdomanda mia, professor D'Onofrio, è importante che la gente sappia che ci sono persone che non sono pagate per pensare. Questo l'abbiamo detto. Pensano, i saggi pensano, ma lo sappiamo che pensano. Però a che servono se pensano? C'è tanta gente che ha pensato in Italia, ha prodotto libri, ha prodotto tomi, ha prodotto volumi interi di pensieri sul nulla. Giornale Radio. Siete la spazzatura radiofonica italiana. Siete proprio una cosa abominevole, siete una merda proprio. La Zanzara. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte, perché affonda il becco su di me. Ai ai, mi ha beccato, ai ai, mi ha beccato. Gratta gratta, ma peggio è. Pure lo spray a di zanzara mi son messo il piede, ma lei... Io non ne posso più degli annunci. Gli annunci soprattutto della eliminazione delle province. Quante volte li abbiamo sentiti? Basta, basta, ci hanno fregato decine e decine di volte, progetti di legge, annunci durante la campagna elettorale, qualsiasi cosa. Adesso ci si mette pure Letta, non dite una parola, dovete stare zitti e con un tratto di penna il più presto possibile eliminare le province, perché l'avete promesso. Io non so se sia una panacea, se possa risolvere tutti i problemi, probabilmente no, è una piccola cosa, bisognerebbe intervenire anche sulle regioni, ma... Basta promesse, non se ne può più. Letta, abrogata la parola provincia dalla Costituzione. Che dici? Stai zitto, non dire niente. Abrogando il termine province dalla Costituzione, da tutti gli articoli della Costituzione che menzionano la parola province, questa cosa possa consentire oggi, ovviamente sperando che il Parlamento lo approvi nel più rapido tempo possibile, di andare al superamento vero. Berlusconi nel 2009, maggio era, Berlusconi 2009. Quando in Italia si vararono le regioni, era indiscusso il fatto che si dovessero anche abrogare le province. Poi non se ne è fatto niente, credo. Beh, ma l'ultimo anche governo, che era? Governo Monti, patroni Griffi. All'esito di questo riordino avremo dalle 86 province delle regioni a statuto ordinario, sono 107 quelle comprensive anche delle regioni a statuto speciale, arriveremo a 51 province comprensive delle città metropolitane. E invece no, non si è arrivati a niente, non si è arrivati a nulla. Mastrangeli, 5 Stelle, ex 5 Stelle, colui con il quale ho avuto una storia omosessuale, ho avuto un contatto, diciamo, con Mastrangeli. Sto scherzando, ovviamente, l'ho preso in giro l'altro giorno ad Agorà, Mastrangeli. Cruciani in ascolto. Marino, come stai, caro Marino? Vi conoscete, Cruciani? Tutto bene. Gli è costato mi auguro che stia bene anche tu, Giuseppe Cruciani. Ma perché eravate insieme in questi talk? Ma sì, ci siamo frequentati, siamo un po' omosessuali. Spero che vi siate divertiti almeno. Io sono legittimamente sposato con una bellissima donna. Comunque, ciò non toglie che possa essere omosessuale. Comunque, non lo so. E comunque... legittimamente sposato, eccezionale. Lo stesso Mastrangeli che dice: io sono un cacciatore di pianisti, un mito. Vi consiglio di fare una puntata anche sugli assenteisti del Senato. Io da quando è iniziata la legislatura e si inizia a votare sono diventato abbastanza famoso come cacciatore di pianisti. Ormai sono diventato praticamente un mito tra i senatori. Li ho sgamati tutti quanti, tutti, ci sono nomi e cognomi sulla mia pagina Facebook, e li sburgiato tutti quanti. Ci facciamo, andatevi a vedere la mia pagina Facebook. Ci facciamo magari una puntatina, E ci sono anche i video annessi, quindi è tutto regolare. Il cacciatore di pianisti. Vabbè, titoli del TG3. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Egitto di nuovo in piazza, manifestazioni contrapposte. I fratelli musulmani denunciano l'uccisione di 4 martiri, ma l'esercito smentisce. Dopo la bocciatura della Consulta, il governo approva il disegno di legge costituzionale per abolire le province. Garanzie per i lavoratori. Letta sull'IMU: confermo che il regime sarà cambiato con una discussione collegiale. Alfano: su questo tema non accettiamo consigli dal Fondo Monetario. Epifani, titoli esagerati, parlo con tutti, anche con Renzi. L'unità del partito non è a rischio e sull'IMU soluzione coerente col programma di governo. Consumi nel 2012 il calo più forte da 15 anni. Si risparmia su tutto, anche su pane e pasta, e rincara anche la benzina. Pubblicata la prima enciclica di Papa Francesco scritta con Benedetto XVI, mentre Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II saranno santi insieme entro l'anno. Ottimisti fino alla fine, diceva Mandela a un ragazzo malato terminale. Ora anche il grande Nelson sta chiudendo la sua parabola. Zanzara! C'è una zanzara tigre. Giovanni da Roma. Giovanni, buonasera. Giovanni. Buonasera, dottor Cruciani. Buonasera. Buonasera a lei e buonasera anche a Parenzo. Va bene, vai. Vada, vada. Vado, non si preoccupi. Vado. Dottor Parenzo, volevo dirgli che lei prima... Parenzo non c'è stasera. Gli avrebbe sequestrato casa, per quello che gli ho detto. Ma guardi che le case ormai sono tutte sequestrate qui, perché paga più nessuno. Ma chi? Ma quello che ha chiamato a quando? La gente è disoccupata, pensi un po' come siamo. Che sequestra? Più che fai gli potranno pagare il mutuo a quel signore. No, dottor Parenzo? Io, a parte che sono Cruciani e Parenzo oggi non c'è, ma al di là di questo... Non c'è Parenzo, mi dispiace, vabbè, dottor Cruciani, no, quello che volevo dire è che una volta al mese potreste fare una trasmissione seria sì. su quello che sta succedendo in Italia. Sì, così poi chiudiamo. Volta, perché io la sua la gradisco come trasmissione, sì. però dico una volta al mese, Cruciani, sì. lei che è di Roma... Ma che c'entra che sono di Roma? Metterci una manina su quello che sta succedendo. Ma dove? Ma sta succedendo dove? Vincenzo D'Ancona, buonasera. Buonasera, dica. Susanni, sono un legittimo ascoltatore di Radio 24. Legittimo, eh? Sì, come il nostro amico dei 5 Stelle. Una considerazione. Il problema del nostro paese è un moralismo calvinista strisciante. Adesso che c'entra perché questo? C'entra come radice un pochettino di tutti quanti i mali, cioè ha incominciato la trasmissione dicendo, estrapolando un pochettino quel dramma nel PD, ci sono i democristiani. Ma quello lo dice Franceschini. Lo dice Franceschini, ma Franceschini si dovrebbe ricordare che è stato Prodi a creare certe creature. Vabbè, comunque guardi, a me non so perché, questi gargarismi all'interno del Partito Democratico, questa guerra che c'è tra i maggiorenti, così come vengono chiamati, tra i vecchi leader e Renzi, che attraversa mille fasi, prima D'Alema a favore contro Renzi, poi a un certo punto c'è stato un momento di dialogo, di incontro, adesso di nuovo contro, cioè veramente mi provoca un disinteresse totale, lo so, è una mia responsabilità, la mia colpa. Io vorrei capire, per esempio Luca Telese è appassionatissimo di queste cose del Partito Democratico, ma com'è possibile appassionarsi di queste stronzate, di questi gargarismi all'interno di un partito? Luca? Ma intanto presentami, più un tempo facevi palapim, palapà, sezione, ecco. Ti abbraccio, ti abbraccio fortissimo. Ti abbraccio. È un malato che si appassiona alle cose del PD, ma siamo pazzi, porta rispetto. Un abbraccio, caro Luca. Come stai? Come stai? Ti sono mancato. Tu mi manchi sempre, lo sai, mi manchi sempre. Purtroppo sei emigrato verso i lidi berlusconiani, come dire, no? Ancora berlusconiani, in Mediaset è un'azienda, non è un lido berlusconiano. Vedi come sei. Porti sempre questo tuo senso. Però una piccola preoccupazione ce l'hai, per essere andato a Mediaset. No. Se no non sarei andato, cioè conto, sai, mi è venuta in mente questa cosa. Se uno sta in una città, non è che se governa Alemanno e lui è di sinistra, oppure se ha vinto Marino e lui è di destra, non prende la metropolitana. Allora, in un paese che non sia un paese di guerra, Mediaset è un servizio. E quindi è come, cioè, come il servizio pubblico, dici? È un'azienda privata con una pubblica utilità. Ma scusa un attimo, ma ti piace? Non lo so se mi piace. Io so solo che tu a un certo punto eri solo in bicicletta con i pizzardoni, lo so. Ma perché era mi piace Marino con i pizzardoni? Ma perché era ora. No. Marino in bicicletta. Marino con i quattro pizzardoni. Una cosa orrenda, terribile, terribile, terribile. Lui con la bici newyorkese. Terribile, preferisco l'auto blu. Preferisco l'auto blu. Preferisco, ti giuro, preferisco l'auto blu con due o tre macchine davanti, ti giuro, preferisco l'auto blu, quella vera con i poliziotti che proteggono il lampeggiatore, i lampeggiatori, basta questa puttanata. Basta questa puttanata che il sindaco esce da casa con la bici, va in Campidoglio, scortato dai vigili, dai su. È meglio l'auto blu con i lampeggianti che si fa strada, che viola il che i segnali, no, la segnaletica. Andare a Borgata Finocchio, io ancora non ho capito, manco c'ha le marce, no, appunto, biciclettina di ma qua a Borgata Finocchio ci va con la macchina, dai su. Ah, ecco, a Borgata Finocchio ci va con la macchina. Comunque guarda, un anti-berlusconiano come te a Mediaset mi in qualche modo mi rende felice, lo sai? Che bello, bravo, mi rende felice. Significa che anche chi scrive libri, per esempio sulla, tu hai scritto un libro sul fatto che Berlusconi si è appropriato in maniera quasi subdola della casa di Arcore, ma scusa, no, devi sapere che su quello no, ho fatto un libro sulla Marchesa Casati Stampa, appunto, in cui c'erano, attenzione, due capitoli su Berlusconi che mi sono divertito moltissimo, sono andati sul fatto e credo che non debbano esserli spiaciuti, perché c'è il racconto, grazie ai fotografi che l'avevamo fotografato in quegli anni, del Berlusconi meraviglioso che ero andato proprio a seguire a intervistare i primi, l'hanno fotografato, c'era lui con la pistola nel cassetto. Comunque ti sei pentito di quell'antiberlusconismo? Per niente. Del tuo antiberlusconismo? Sono scritte, sono tutte cose pubblicate, quelli che si pentono di quello che hanno scritto sono personaggi patetici. Senti Luca, ma perché oggi mi hai chiamato e hai detto dobbiamo parlare della questione di Sara Tommasi, perché? No, perché per me Sara Tommasi, che diventa l'argomento più discusso in Italia, mi scervello sul perché, e secondo me è una cosa interessante. Vabbè, la gnocca tira e potrebbe essere una spiegazione. Vabbè, quella è l'unica spiegazione. C'è qualcosa in Sara Tommasi che la rende un po' everyman, cioè tutti possono distinguersi e riconoscersi in lei, cioè possono dire io sto nella merda, ma non sto male come lei, non sono pazzo come lei, quindi questo odio del tipo deve morire, questo schifo di messaggi che leggo su internet, no, odio, ma non è quello, dai. Mi sembra un bisogno di catarsi collettiva, e c'è qualcuno che sta peggio di me, c'è qualcuno più studiato di me e deve morire. No, questa ma secondo... proprio mi ha dato fastidio. Senti questo ascoltatore da Luca, Giampaolo, sulla questione Marchionne e Boldrini. Giampaolo. Buonasera. Dica. Senta, io volevo dire che secondo me sarebbe stato scandaloso il contrario se la Boldrini fosse andata all'invito. Uno viene invitato da Marchionne in una fabbrica, presidente della Camera, che è andata ovunque è andata, pure troppo, e non va da Marchionne, è in una fabbrica, non da Marchionne a baciare la pantofola, in una fabbrica. Però siccome Telese su questo so che è scatenato, dopo la borsa Luca Telese è ancora con noi. Siamo la follia, c'è una responsabilità inaudita, mi ha perso Parenzo, sono incazzato come una bestia con lei, come fa a aver perso Parenzo? La Zanzara. Non mi moleste moschito, non mi moleste moschito, non mi moleste moschito, why don't you go home? Non mi moleste moschito. Siamo qui, Giuseppe dalla provincia di Pavia, buonasera. Giuseppe? Non c'è. È Lores, provincia di Vicenza. Lores. Buonasera a tutti. Dica. Per sfortuna che c'è Riccardo. In che senso? Quel puttone comunista con la puzza sotto il naso. Ma però, chi? Vabbè. Il Riccardo che c'era prima, non so io perché ho acceso, che ho sentito che lei mi ha salutato e l'ha chiamato Riccardo, vabbè, non importa. E lo dico io perché si vota con Berlusconi, perché ci sono i comunisti, come quando si votava DC perché c'erano i comunisti. Voteremo sempre merda perché l'altra merda è molto più puzzona, avete capito? Dice lei dice così. I comunisti in Italia, e sa cosa mi viene in mente a me quando si parla di sinistra? E tutti quanti. Cosa? Il lato B. Perché? Molto meglio il lato A. Ma in che giusto? Senso? Non ho capito niente. Perché le viene in mente il lato B? Scusi. Ma perché sono tutti culattoni sinistrosi, sono tutti culattoni. Ma lei non è malata, ma lei è malata di mente. Ma lei vabbè, è malata. E io sono malata di mente, ma quelli sono malati di culo, va bene? Ma lei è malata di mente, sono ma che mestiere? Tutti culattoni. Ma che mestiere fa lei? Culo, che mestiere capito? Fa lei? Che mestiere fa? Cosa fa? nella vita? Ma cosa fa? Me ne frega lei, perché, cosa faccio io? Perché si è ridotta in questo modo così bestiale? Perché? Ma non si preoccupi per me, si preoccupi per lei. Perché si è ridotta così? A lei pensare, a pensare che quelli di sinistra sono tutti culattoni, come dice sono lei? Sono tutti culattoni. Ma com'è che si è ridotta così male lei nella vita? Io come mai? Da loro, perché si sono ridotti tutti per il culo in quelle condizioni. Come mai si è ridotta così? Come mai? Perché non c'è nessuno? Perché non c'è nessuno che la cura durante il giorno? Perché, non perché nessuno si prende cura di lei? Perché? No, lei sta male, sta molto male, glielo dico io. No, ma lei sta molto male. Tanto quello che pensa lei a me non me ne frega proprio niente. E allora perché chiama? Perché chiama? Così per sfogarsi, perché è frustrata. Nella vita lei è frustrata. Sicuramente lei è frustrata, lei è molto frustrata. Ma pensi per lei che lei è fuori di testa? Lei è frustrata. Sono frustrata, lei, lei è molto so frustrata cosa... nella vita. Se lei pensa ma che tutti quelli che sono i cazzi suoi, lei è quel coglione nano di Parenzo. Lei è frustrata, lei dice così, dice, insulta senza, senza nemmeno una ragione concreta, perché si può tranquillamente insultare, però per un motivo. Lei dice nano, culi, eccetera, eccetera, perché è malata, perché è profondamente frustrata. Nella vita ha dei problemi. Io la capisco e l'abbraccio anche. Capito? Sciriccia, è l'unico modo che ha per farselo restare. Ma stia tranquilla, ma lei è malata, ma lei è malata. Se io la lascio parlare, lei dice delle nefandezze incredibili, dice delle nefandezze pazzesche, perché è bacata in testa lei, ha capito o no? No, non ho capito niente, neanche non me ne frega è niente. È bacata, lei è malata, malata. Attenzione, attenzione. Oh, è tornato Parenzo, è tornato Parenzo, ma dove eri finito? Che ti ho cercato alle 6:30, vabbè, è venerdì, lo so, è venerdì, vabbè, ho capito. Tempo all'ultima puntata della Guerra dei Mondi, puntata speciale stasera, ma non ti interessa, quindi non ne parliamo. Cioè, l'ultima puntata, no? Ultima, finito, l'ultima tutto finito. L'ultima puntata di questo tutto ciclo finito. Di quattro, ringrazio la Rai. Ultimo ringrazio... ciclo, ultimo, è finito, tutto morto, ultimo, tutto finito. Adesso, benissimo. Se è no, tutto morto lo dici tu, mi stai portando anche nera. Tra poco devo andare in onda, io ti volevo solo salutare. No, no, aspetta! Perché... Su, io ti ho fatto venire apposta perché tu, tu lo sai tra l'altro, ti sei liberato qualche minuto per la signora Pitonessa, per la signora Pitonessa. Ah, se c'è davvero la Pitonessa io allora, resta, allora qualche minuto resta. Ve lo posso dedicare. Ma ve lo posso dedicare, adesso ne possiamo fare anche a meno sinceramente. Onorevole Santacchè, buonasera. Buonasera. Buonasera a lei e a tutti. Senta, lei ha visto qualche puntata del signor Parenzo? Non l'ho seguito, mi dispiace, lo vedo stasera però, stasera starò lì alla televisione a guardarlo. Lo sa che Brunetta se l'è, se l'è presa con Parenzo, no? E come mai? E perché dice, si ricorda il caso della Ravetto che andava via? Mi ha messo nella lista dei rossi di Rai 3 assieme al signor Floris, la signora Annunziata. Ma lei è d'accordo con questa crociata che sta facendo Brunetta sull'informazione, eh? Ma io questo, Brunetta fa quello che meglio sente. Io vorrei solo darvi un avvertimento, che sono qua a volte in languide spire, quindi fate attenzione. Come in languide spire? Sapete che la pitonessa cioè, avvolge, stritola, ingoia. Ho capito, però il pitone dov'è il pitone? Il pitone Sallusti. No, ma lei Parenzo è ossessionato con questa cosa. È ossessionato. Anche il pitone, no? Però pitone e pitonessa anche il pitone. Sì, però pitone e pitonessa non sono, cioè, sì. Non c'è il pitone, c'è solo la pitonessa. Ma di chi è come questo soprannome? Come qua c'è falchi, colombe. Esatto. Io ho detto né falchi né colombe, pitonessa. Scusa, perché ma... questo l'ha scritto il Foglio, che io sono. E chi se l'ha inventato però? Pare che il Berlusconi, foglio, no? Il Foglio. Sì, il Foglio, quello foglio me lo ricordo. Ha scritto che io sono la pitonessa. Però ha detto anche che mi sembra che la parola venga da Berlusconi o no? No, non mi risulta. No. No, no, no, no, no, no viene dal Foglio. E a lei piace Foglio moltissimo questa cosa qua, diciamo la verità. A me piace moltissimo, è uno scherzo nella vita, un poi gioco. Non bisogna prendersi troppo sul serio, no, perché vedo che Parenzo cioè, si ride tutti i giorni. No, si prende troppo sul serio, per... guardi, si prende troppo sul serio. No. Questo programma la Rai l'ha trasfigurato, l'ha trasformato, la Rai trasforma tutto, diciamo Santa che è una cosa infatti pazzesca. Dalla Rai bisogna stare distanti. Lontani, anche privatizzare, anche chiuderla, qualcuno ha detto meglio chiuderla come in Grecia o no? Ma che siamo, no, ma io guardi, la Rai è un problema serio nel nostro paese. Privatizzarla sì, però, eh. Io sono assolutamente d'accordo nella privatizzazione della benissimo, RAI. Benissimo. Assolutamente d'accordo. Senta, a proposito, la vicepresidenza della Camera... Anche perché, questa politica, poi sì, c'è solo una parte della politica ormai che è dentro la RAI, non mi piace. Vabbè, c'è pure il centrodestra la RAI, non è che non ci sia. Diciamo, ma io non vorrei che ci fosse né centro, né centrodestra, né centrosinistra, perché vede, le aziende devono essere in mano ai manager, appunto, agli imprenditori, a coloro che stanno sul capaci mercato, a stare sul mercato. La RAI non è capace a stare sul mercato. Senta una cosa, e ma perché... Scusi, perché io devo pagare il canone? Perché oggi, ma lei lo paga? I canali, certo che io lo pago. Sicuro? Certo, eh? Lo pago, è sicurissimo. Sì, sicurissimo. Se vuole le mando no, la risposta. Per carità, no. Io il canone lo pago. Però andrebbe cancellato. Ma trovo andrebbe che non cancellato. Ha nessun senso. Andrebbe cancellato il canone, diciamolo. Ma dovrebbe proprio, non dovremmo pagarlo nessuno il canone in Italia. Cioè, ci vorrebbe uno sciopero del canone, ci vorrebbe. No, ma questo è interessante. Ah, ma io guardi, l'ho già promosso tante volte. Io sono contraria al pagamento del canone RAI, soprattutto adesso nella trasformazione delle televisioni, che sì, ci sono moltissimi canali, io non vedo perché alla RAI, che oltretutto fa anche dei programmi che a me fanno schifo, devo pagargli il canone. Che cos'è che le fa schifo, per esempio? No, un sacco di robe. Per esempio, non so, se come lei ha detto. Glielo dico, lei con me deve parlare di principi e non di persone. Ma come no? Non ma parliamo noi... di parenti. Ma no, che c'entra? Un sacco di parliamo di parenza. Senta un attimo, perché non rinuncia alla vicepresidenza della Camera? Fa un gran gesto, io le do un consiglio di immagine. Rinuncio lei. Guardi, a me non interessa, cioè io non sto facendo una battaglia su una poltrona, sto facendo d'accordo, una battaglia politica, perché se noi siamo un governo di coalizione, cosa che mi dicono tutti i giorni, al quale io ogni giorno credo meno. I democratici bisogna allora, se noi siamo un governo di coalizione, l'afferrante alla Commissione Giustizia, che sì, per noi è come una lama di cristallo, l'abbiamo votata. Perché una lama di cristallo? Siamo Ferranti, no, la Ferrante, voglio dire, per dirne una. Allora, io dico, o si evince che noi siamo un governo di coalizione, sì, e nel rispetto della democrazia c'è sì, chi in casa propria decide per sé, eh? Benissimo, oppure devono dimostrarmi che non c'è un governo di coalizione. E quindi allora cioè lei dice o il Partito Democratico mi vota perché stiamo insieme oppure no, la coalizione. Ma guarda, a me non interessa se mi vota o non mi votano, a me interessa che si vada in aula e si metta in votazione. No, d'accordo. E poi di lì noi le conseguenze politiche. Però anche nel suo partito c'è no, guarda, il mio partito è compattissimo. No, ma perché non hanno messo subito al voto questa roba? Allora anche loro hanno tentennato di fronte al perché voto immediato. Ma no, non c'entra il mio partito, sono con le regole della casa. Le regole della casa di questo governo quali sono, scusi? Ma bisogna votare subito allora? Prendere tempo. E come lo chiameremo? Come lo possiamo chiamare? Invece amo fare le battaglie con la mia faccia, con l'assunzione di responsabilità. Vorrei che i democratici facessero la stessa cosa. Come lo non mi vogliono votare? Andiamo in aula e non mi votassero. E dunque se non la votano, se non la votano il governo è finito. No, io non dico che il governo è finito. Vabbè, lei dice la coalizione non esiste. Sarà la soddisfazione di capire che questo non è un governo di coalizione. E dunque mi stanno facendo un grande favore, mi stanno facendo diventare un simbolo, che nella tecnica che lei Cruciani conosce molto bene della comunicazione, una cosa importante. Dunque per lei è tutto di guadagnato, diciamo. Non anche è per se, me anche se non la vota, non è una questione personale, no, lo dico da un punto di vista politico. Politico, io vabbè, sono appartengo a quell'ala del Popolo della Libertà che dice che questo governo è un errore mantenerlo in vita. Oggi io ho mandato un avvertimento importantissimo al governo, perché se il Fondo Monetario Internazionale dice che è sbagliato togliere l'IMU, io dico A, che non voglio perdere la sovranità nazionale, e B, che gli italiani l'IMU non la devono pagare sulla prima casa, per cui se Saccomanni pensasse mai di fare ciò che il Fondo Monetario Internazionale gli consiglia di fare, io dico a Saccomanni si trovi un'altra maggioranza. Cioè gli italiani non dovevano pagare l'IMU anche se il governo decide di mantenerla, dice lei. No, grande sciopero fiscale sull'IMU. L'IMU per noi la prima casa è sacra, come abbiamo fatto grazie a Dio in uno dei pochi provvedimenti del governo su Equitalia, ma ho capito che non c'è più la prima. Però voglio dire Parenzo mi sembra di capire secondo la Santa Chè la maggioranza non esiste più, mi sembra di capire, no? Ma sì, no, lei ha detto la maggioranza praticamente non ha ragione di esistere ormai, perché tentenna. No, io ho detto se la non è che non ha, io voglio più governo, non senza governo, ma il più governo vuol dire che fa le cose. Non è che rinvia. Fantastico che a giugno gli italiani non paghino l'IVA. Ma non è che fa le cose se... Meraviglioso che non è aumentato il punto di IVA sino a fine di anno. Benissimo. ma entro il 30 agosto bisogna assumersi la responsabilità delle riforme sulla tassazione sulla casa. Parenzo, dimmi, Parenzo. No, Parenzo, io dico, io cos'è questa voce di sottofondo, Zanzaretta, cos'è? Ma non è una voce di sottofondo, mentre lei sta facendo una battaglia su quella poltrona, non per una questione di poltrona, dice la perché lei la fa lei la poltrona e deve essere alta. No, ho detto non, ho detto non per una questione di poltrona, ma lei è una figura che divide. Che divide perché non è, è una persona molto che ha fatto molto molto polemica. Allora io le dico, mettere lei lì è come dire, beh, mettiamo Jack lo squartatore a capo della Commissione dei diritti umani. Dice, forse Jack lo squartatore della Commissione dei diritti umani, metaforicamente parlando. No, scusi, Parenzo, io voglio seguire lei nel suo discorso e la lei ringrazio. È un falco, questo... lei dentro il PDL. No, ma io le dico, ma io cosa ho fatto, scusi, nella vita? No, perché cioè, cosa sono? Indagata, condannata, ho rubato, cos'è che ho fatto? È considerata una figura che divide. Ma non è che sono una figura che divido, sono una figura ben chiara da che parte ma sta. Se, ma lei ce lo vedrebbe bene un gatto alla guardia del ristorante di pesce. Ma che cavolo di discorsi lei fa, scusi? Lei mi deve dire una ragione, ma qua dobbiamo ragionare sui fatti. Mi ma deve dire per quale ragione io non posso stare lì, perché il PD sono antipatica, perché sono PDL, perché vado davanti ai tribunali a dire che ci sono dei magistrati. Lei divide, fa polemica. Ma grazie a Dio che divide, ma lei forse... Lei ce lo vede bene una volpe a guardia di un pollaio, Parenzo, ce lo vede bene una volpe messa lì. Parenzo, ma io guardi, le dico una cosa importante, io non sono una che voglio piacere a tutti. Io voglio piacere alla mia parte, io non sono per tutti, lei forse ha una politica che lei vuole essere amato da tutti, io non voglio essere amata da tutti, voglio essere amata dai miei e odiata dagli altri, perché guardi, anche questo vizio in Italia, che quando un comunista ti dice che fai una cosa giusta sei godi, io non godo se un comunista mi dice che ho fatto una cosa giusta, di notte non si dorme e penso di aver sbagliato, perché abbiamo una visione opposta del mondo, dell'economia. Perché in quel posto ci deve essere per forza una persona che si vuole farsi amare da tutti? Spiegami, perché in quel posto... No, una figura che divida di meno, lei ad esempio ce lo vedrebbe bene Verdini alla giustizia, invece alla giustizia non c'è Verdini, ma cosa c'è? Voglio dire, cosa sta dicendo? Succede se il Partito Democratico non la vota? Però andiamo sul concreto adesso, al di là dei principi che sarà un problema della maggioranza, c'è un problema politico, bisogna votare questa cosa entro l'estate? Secondo me bisogna votarla la prossima settimana. Se questa cosa non succede, il governo cade? No, poi la votiamo fra 15 giorni. Vabbè, guardi, io voglio solo avere una certezza. Che noi abbiamo la schiena dritta. Che il partito ha deciso che il candidato per la vicepresidenza sono io. E non rinuncerà mai lei? Io non rinuncerò mai, ma non ci rinuncerà il Popolo della Libertà. Detto questo, vogliono prendere tempo? Vogliono che gli italiani si allontanino di più dalle istituzioni? Per me le istituzioni sono cose serie. Ma vabbè, pare non è che gli italiani che siamo... si allontanano per questo, ma però. Ma certo, perché noi dobbiamo fare quello che ci ha chiesto il vicepresidente della Camera. Ci deve essere, punto. Non c'è, viene meno quello che dovrebbe essere un... E dunque viene meno il governo, cioè se succede che non la votano. Ma io dico, Cruciani, parlo con lei perché penso che lei capisca. No, ma io capisco, sì, certo, ecco. Che viene meno, allora, la maggioranza, viene meno la maggioranza. Questo, allora, se il Partito Democratico dicesse io non voto la Santanchè, capirà che si apre un problema politico, no? E dunque il governo è a rischio, cioè può io cadere... Io lo so, anche perché io sono certa che mi votano, quindi non ce l'ho. Chi? Il Partito Democratico? Ma certo. Lei dice, cioè, che le dicono? Nei corridoi che le dicono? No, perché se il partito... Ma lei ha visto come si è diviso. Scusi, io sono stata difesa da Travaglio, sul suo fondo, sul fatto. No, non è che è difeso. Ha detto, se uno ha accettato Berlusconi, può accettare tranquillamente anche la Santanchè. Questo, perfetto. Che è quello che dico una io. Cosa da poco? No, ma questo l'ho detto prima di Travaglio, devo dire la verità. Però la stessa cosa. Qualcuno dice... Vorrei dire a Parenzo che io non voglio essere amata da tutti. Comunque... E non ho la sindrome di Però il ragionamento di Parenzo, una parte del paese lo... incarna Parenzo una parte del paese. Questo qua è legittimo. Parenzo incarna una parte del paese che non la vede vicepresidente. No, ma io non dico che la Santanchè c'ha la rogna. Guarda, Parenzo deve mi voterebbe in ginocchio. Sì, sicuro. Parenzo felice. Sicuro. Ma io non dico, io dico che la Santanchè, non dico che ha la rogna, tutt'altro. La Santanchè fa le sue battaglie, è una persona che divide, fa le polemiche. Ma può fare anche vicepresidente della Camera? Qual è il problema? Scusa, qual è il problema? È una tu ce la vedi, io la Santanchè la adoro. Ma è stata una grande mossa politica per mettere Ma scusi, ma oggi la Boldrini non è la Camera dei Deputati, è la Camera del Lavoro. Cioè, lei io dico, è più la presidente. Parlate di me, ma parlate del presidente che è stato eletto in altre condizioni. Oggi ci troviamo presidente della Camera, sta con Selle. Oggi il mio tweet: Boldrini, Camera dei Deputati, no, Camera del Lavoro. No, io ho detto presidente della FIOM, mica. Presidente della FIOM più che no, della per Camera. Me la Camera del Lavoro, la Boldrini, non è la Camera dei Deputati. Mica sta dicendo che è l'Andrangheta. Appunto, non è una cosa negativa, volendo. Vabbè, perché io invece sono l'Andrangheta. No, no, tutt'altro, lei è la pitonessa, ma la pitonessa deve continuare a fare la pitonessa, non è che può andare lì nelle istituzioni a fare la passacarte, dici no, tu. Invece ma io le ricordo in passato che sta, perché invece la Bindi com'è? La Bindi è, insomma, così, è battagliare pure lei, diciamo la verità. È stata vicepresidente della Camera? Sì. Cioè, lei si considera la Bindi del PDL, questo è bello. Cioè lei si considera la Bindi del PDL? Niente, per carità, non credo che si considera come la Bindi, no, lei. Ma no, facevo degli esempi. No, ma per dire, non si considera come la poi Bindi. Scusi, ma io le voglio dire, con tutti i problemi che abbiamo nella vita, che gli italiani vabbè, non però quello, fine mese, quello stiamo... Ma siamo qua per... Ma chi se ne frega? Ho capito, ma pure lei... Ma se lei ha fatto... Come chi se ne frega? No, chi se ne frega? Lo dico bello chiaro, chi se ne frega? Ma perché scusa, gli italiani non mangiano. Allora lei lo sta facendo per una questione di principio, lo sta facendo per una questione di principio. No, io lo faccio per uno senso di servizio. Il vabbè, però della per una battaglia politica. Deciso, ho io come faccio tutte le battaglie, io sento sta zanzara di fondo che fastidiosa. Che c'è? No, c'è qualcuno accanto, c'è qualcuno accanto. Chi c'hai? Parenzo, chi c'hai? Questa roba. Parenzo, devi riconoscerlo dalla voce, devi riconoscerlo. È un elettore della signora Santanchè. Chi è? Nei nostri sogni. Chi è? Aspetta, chi, deve... è? Chi potrebbe essere? Chi potrebbe... potrebbe essere uno del sud, potrebbe essere uno del nord, uno potrebbe del... essere uno della Sardegna. Uno di Sardegna. Santanchè, mi aiuti? Dice un suo elettore, chi è? La conosce la signora Santanchè? Santanchè, anche. Che lei conosce la signora Santanchè? No, non ho mai avuto il piacere. Mai avuto? Ah, ma sì, questo è Shel Shapiro. Shel Shapiro, yeah. Shel, come stai? Ma no, che amico della Santanchè, tu sei comunista, sei da morire, sei. Beh, come sei un comunista. Cioè, sei molto comunista. Non più. Come stai, Shel? Un abbraccio, ripassami Parenzo un secondo. Anche a te, un ciao, abbraccio. Ciao, abbraccio. Ciao. Shel Shapiro, un grande Shel Shapiro. Io non lo conosco. Il grandissimo Shapiro, grande è cantante, è un cantante comunista degli anni 70, un rivoluzionario. Che cantante comunista, amico di Parenzo, amico di Parenzo. Shapiro, ti ho detto che sei un cantante comunista, è tra Santanchè. Vabbè, è uno di quelli io, che fa. Io non l'ho detto, io ho detto io non lo conosco. No, io l'ho detto, ma cioè, stravolge Parenzo è proprio voglio stravolge dire, tutto. Ma tanto io non ho detto una parola, se io non lo conosco. Allora, onorevole Santanchè, che qualcuno ha detto che lei siccome si è proclamata orgogliosamente fascista, qualche deputato del PD non può fare il vicepresidente della Camera. Vabbè, capisco che non si può parlare con chi non ascolta, sa, è come le intercettazioni, bisogna sentire tutte le frasi, invece qua estrapolano, ma va bene, lasciamoli pensare. Vabbè, lei disse una volta, sono orgoglioso di essere fascista, non mi ricordo ma lei deve prendere occasione. Tutta quella frase, era perché era uscito adesso, ma io poi non ci voglio. Vabbè, non parliamo. La pensino così, va bene, le frasi sono le frasi, però. Sì, continuano per, come le intercettazioni, no? Vabbè, sono una frase detta in un comizio, non è la stessa una cosa. Una parola, vabbè, facciamo questo sistema, siete contenti voi? No, ma non siamo contenti noi, ma io sto dicendo che... No, ma voi ditelo, dice, no, io sono impresentabile, quindi non posso essere votata. Qualcuno dice che contenta. Lei è impresentabile, qualcuno, io non lo penso, qualcuno dice che lei, qualcuno del PD, deputati ma del lasciamoglielo pensare, ma grazie a Dio, ma non siamo mica sul pensiero unico qua, non siamo mica in Cina, non siamo mica un paese comunista, cioè anche per le sue... Dove vige il pensiero unico, no. Parenzo, siamo lontani da questo, siamo ancora ma liberi. Scusami, ma lei sa bene, lei pensa che io sono una schifa. E sul fatto che lei pensi che io sono una schifezza, sono orgogliosa che lei lo pensi, perché lei proprio ma lui non lo pensa comunque. No, ma per dire. Senta, ma non sarebbe meglio votare il prima possibile, andare a votare alle elezioni? Se lo chiede a me, io sì, tanto io ho un certo concetto di questo governo che voglio dire, non vedo come posso trovare le soluzioni per il paese. Ma anche per Berlusconi non è meglio votare il prima possibile, prima che arrivi la valanga giudiziaria? Cioè andare a votare a ottobre sarebbe l'ideale. Berlusconi ha detto che vuole il sostegno a questo governo. Però quindi... per lei sarebbe meglio votare il prima possibile? Sarebbe meglio secondo me per gli italiani, cioè non votare prima possibile. Per gli italiani sarebbe bene che ci fosse più governo, sarebbe bene che non ci fosse un governo che rimanda, sarebbe bene che ci fosse un governo che è vero che non aumenta di un punto l'IVA, ma che lo fa pagare agli imprenditori attraverso le coperture che sono un acconto maggiore sull'IRAP e sull'IRES. Senta, quindi... Berlusconi in galera, lei che fa? È un'ipotesi possibile? Berlusconi in galera? Sì. Io non credo che Berlusconi andrà in galera. Beh, però qualcuno dice che è un'ipotesi realistica. Cioè se... Non consentiremo, perché non lo consentiranno quei 10, 12, 15 in che modo? Milioni di italiani. In che modo? In che modo non lo so, ma siccome vede, a differenza di altre persone che hanno avuto dei problemi degli altri politici in Italia, c'è una differenza sostanziale, cioè? Che non avevano i voti. Berlusconi, ma con i voti mica si può impedire la galera. Che siamo usciti. Ma non si può impedire la galera con i voti. Ma cioè... lei vedrà che non sarà questo il caso. Anche Craxi c'aveva i voti. Craxi non aveva i voti. Beh sì, un po' di voti ce l'aveva. No, Craxi quando è andato via non aveva i voti. Sì. Berlusconi ha milioni e milioni. Vabbè, non è che milioni di voti si può impedire a uno. Berlusconi chiedono gli autografi, chiedono di resistere, chiedono di continuare nella sua battaglia. Non gli tirano le monetine in testa. Allora abbiamo... Anche perché sa, Berlusconi non ha mai rubato, e per gli italiani è una cosa importante. Berlusconi ha creato lavoro. Sì. E ha fatto... No, lei dice, gli chiedono gli autografi. Pubblicità, torniamo subito, 2 secondi. La zanzara. Eccoci qui, Parenzo, adesso ti lascio, Adesso ti lascio, non ti preoccupare. Devo andare a lavorare, sì, perché adesso pubblico. Ma perché adesso che stai facendo? Pubblico, scusa. Di cui la politica ha fatto strame nel corso degli anni, la politica. Fateci lavorare, politici, fateci lavorare. Ma guarda che sei diventato, penoso. Criticateci sulla base dei risultati, io di questo paese. Ma un mese di Rai, un mese di Rai. Grande... Onorevole Santanchè, ma dica qualcosa, ma come si è ridotto? La pubblica culturale del paese, avete fatto strame, politici, avete fatto strame. Ma come ti sei ridotto? Non è Sant'Anche, dica qualcosa. Io non ma io fa, non mi sento toccata dalle cose che dici. No, Parenzo, ma non è. Io non sono un politico di professione, le volevo soltanto aggiungere che il comportamento che l'Italia ha avuto nei confronti di Craxi è stato veramente un comportamento criminoso, criminale, sbagliato. Sì. Perché vede, non si può trattare leader politici. Cioè i magistrati, dice lei. Come? I magistrati o in generale? Ma insomma abbiamo visto oggi, no? Tutti quella parte lì di magistrati, ne abbiamo uno di Pietro che voglio dire ha fatto il ministro di questo paese, ne abbiamo un altro che oggi cos'è che fa nella RAI, cos'è presidente? Ah, è il consiglio di amministrazione della RAI. Nel consiglio di amministrazione della RAI, ne abbiamo un altro che è senatore, abbiamo visto, no? Da che parte si sono collocati. Senta, ma se fosse avete dei dubbi che quella parte... E in quel momento del paese dove era collocata, gli ho detto 3 su 4 del pool di mani pulite sono tutti messi lì, pagati da noi cittadini, alla vigilanza RAI, a fare il ministro, a fare il senatore, per cui di che dobbiamo parlare in questo paese? Scusi, ma se fosse perché Ingroia cos'era? Ingroia era quello che processava Berlusconi sui rapporti mafia Forza Italia e poi che cosa ha fatto? Il giorno dopo è sceso in campo ed era contro Berlusconi, ma volete aprire gli occhi o no? Capire Parenzo? Che c'è un disegno criminale nel nostro paese da una parte della magistratura politicizzata. Ecco chi vuole salire. Perché fin quando ridiamo e scherziamo va bene. Quando parliamo di cose serie, siete italiani tanto quanto me e vi dovreste ribellare, perché la magistratura è un ordine dello Stato fondamentale e importante. Dunque, sono che stati... tutti insieme dovremmo combattere per una giustizia giusta. Anzi, faccio un appello, italiani, andate a votare per il referendum dei radicali. Come referendum dei radicali? Per una giustizia giusta. Ah, lei va a firmare, lei sostiene il referendum dei radicali? Assolutamente, li sostengo con convinzione. Dunque, Parenzo, secondo alcuni sono già morti, qualcuno ha detto se Berlusconi... Perché lei non li firma i referendum dei radicali? Io li firmo tutti. Ah, tu firmi con la tua? Dice, se firma il referendum dei radicali, vuol dire che ammette che in Italia non c'è una giustizia giusta. Siccome perché voi lei starnazza. Voi avete starnazza. Starnazza. Starnazza lei starnazza. Che dici Parenzo? Voi avete fatto una battaglia sulla giustizia facendo solo le leggi per Berlusconi anziché quando avete ma non dica siete cacciate. Ridicoli quando comunque io non voglio perché lei adesso ma lei mi deve spiegare allora perché firma il referendum dei radicali però che Parenzo dice che lei quello nel quale noi crediamo. Parenzo dice lei con quello perché che pensa sulla giustizia non può fare vicepresidente della Camera un attimo Parenzo è quello che volevi dire David io dico che quello che lei ha detto sui magistrati e sulla giustizia conferma che lei non può assurgere, non può salire in quello scranno alto di Montecitorio, non può invece, farlo. Invece, va bene, sono d'accordo con lei Parenzo, però sa lei ai nostri radioascoltatori che cosa ha dimostrato? Cosa? Che il problema suo e di tanti altri è solo l'odio nei confronti di Berlusconi, perché se lei va a firmare... Ma non ho nessun odio io. Lei va a firmare i quesiti referendari dei radicali, sono quello che noi pensiamo da sempre della riforma della giustizia. Io per cui lei, mi dispiace, fa una pessima figura, perché ha dimostrato che quello che diciamo noi sulla giustizia è giusto, ma siccome c'è Berlusconi è sbagliato, si è fatto il suo prezzo. Io dico solo questo. Può mettere giù, questo, perché guarda, ha fatto una figura di palta. Io le dico solo questo, io dico che i pitoni stanno nella foresta e non stanno nei salotti, perché tu i pitoni non stanno nella foresta, viene fuori un casino. I pitoni non stanno nei salotti, nelle gabbie. Ma che stanno i pitoni? Ah, allora lei è anche contro gli animali, madonna mia, non potrò uscire di casa da stasera, Parenzo, metta giù, perché non può uscire di casa tra la cazzata sulla giustizia e questa sugli animali, le sputano in faccia appena esce fuori dalla porta. Se uno mette un pitone in un salotto fa un casino, i pitoni stanno dove stanno i pitoni, va bene, non nei salotti. Senta, ma se Berlusconi non può più uscire di casa, se ma Berlusconi... sa cosa dovrebbe fare lei? Che deve fare? Comprarsi un bel barboncino e portarselo sempre appresso. Può essere un'idea, ma se Berlusconi fosse interdetto, un attimo, se fosse interdetto dai pubblici uffici, che succede? Non può succedere. Ma come non può succedere? Su, può succedere, non benissimo. Può succedere. Fra qualche mese può succedere. E Forza Italia. Vabbè. A Napolitano ha tradito qualche patto, secondo lei? C'era un patto che Napolitano ha tradito che garantiva un po' Berlusconi o no? Si sente un po' tradita? Ma che sta dicendo? Ma che sta una domanda. Dicendo? Ma che sta dicendo? Ma che patti? Ma secondo lei nella grandezza di Berlusconi che ha l'amore per la sua patria e per il suo paese va a trattare di cose sue, ma che Berlusconi conoscete voi? Perché non può ma non lui, qualcuno per lui, magari si è sentito. Nessuno, noi abbiamo anteposto il bene dell'Italia e degli italiani. Vabbè, ma comunque lei Forza Italia. Come Forza Italia? E Forza Italia. Ma come Forza Italia? Ancora non c'è Forza Italia, c'è una parte del partito che non la vuole, una parte del PDL che non la vuole. Alfano, il primo secondo me... scritto sarà Cruciani. No, sarà quello, numero uno. Quello è impossibile. Parenzo non lo vogliamo, Parenzo non c'è. Noi siamo per molti, ma non per tutti. Parenzo, non pianga non, e se ne faccia una ragione. Non c'è problema, pitonessa, non si preoccupi, ma no al pitone. Senta, devo andare nella gabbia. Un'ultima, sì, nella gabbia. Più importante, Forza Italia o la vicepresidenza della Camera? Cioè fare la coordinatrice di un partito o fare il vicepresidente della Camera? Più importante è quello che risolve il problema ho capito, sì, giovanile. Però su, questo non è... Ma non lo può risolvere lei, lei non lo può risolvere da sola. Si mette la limpa. Però posso fare delle belle battaglie. Beh, più importante fare il coordinatore. Andate a firmare il referendum dei radicali. Può essere scatenata sui radicali. Giustizia giusta. Più importante fare il coordinatore di Forza Italia o il vicepresidente della Camera? Guardi, per me è più importante che Parenzo capisca ciò che non riesce a capire. A presto, grazie. Ciao. Grazie, arrivederci. Saluti. Ma questo se n'è andato di nuovo, ha abbassato il telefono, ha chiuso questo cazzo di trasmissione, non se ne può più, guarda, serio da Ferrara, buonasera, serio. Buonasera, dottor Cruciani. Dica. Io volevo dirle che ho votato per Giannino nonostante tutto. Io sono un elettore deluso da Berlusconi perché non ha fatto il programma liberale che aveva promesso. E comunque io voto Berlusconi anche turandomi il naso perché io non... Ma non ho capito, alla fine che ha votato? Dice che ha votato Giannino e adesso dice che vota Berlusconi. Mi scusi ma non ho sentito l'ultimo passaggio. Serio, prima ha detto che ha votato Giannino, serio per modo di dire, serio solo di nome. Votato... Io credo di essere nomen omen, sono serio ma non serioso. Allora, serio da Ferrara, lei ha detto io ho votato Giannino, poi dice che vota Berlusconi, ma si decida? Beh, certamente, perché non voterò mai a sinistra, anche perché io non riesco a comprendere, anzi lo capisco, un paese dove Parenzo fa audience è un paese ben messo male. Vabbè, non esageri adesso, su Giancarlo dalla provincia di Roma. Io la mia opinione, ma io la seguo sempre, però da quando c'è Parenzo la seguo con molto fastidio, cosa che non facevo prima, ma tengo anche la radio. Ce ne faremo una ragione. Giancarlo dalla provincia di Roma, tutti spengono la radio adesso, chissà perché poi non succede. Tutti vogliono spegnere la radio. Giancarlo dalla provincia di Roma, su. Buonasera, dottor Cruciani, buonasera, dica. Dottor Parenzo. Non dalla provincia, ma da Roma, Roma città. Vabbè, è uguale. Senta, no, il mio intervento invece è in questo senso. Io ho ascoltato l'intervista che lei ha fatto intorno alle 6:30, 6:40 al Riccardo Scamarcio e ho avuto a pelle questa impressione. Sì. Le è mancato molto il dottor Parenzo. Ma se l'ho detto io, Giancarlo, l'ho detto io. Evidentemente quando lei ne ha parlato, io ne avevo parlato mezza con la sua collaboratrice. Poi ovviamente per il lavoro che faccio ho dovuto interrompere un attimo. Ma chi se ne frega adesso? Cioè, Giancarlo adesso ci sta raccontando quello. Però quello che le voglio dire è proprio a livello provocatorio, perché lei è di un'abilità incredibile. Si è sentita proprio questa mancanza del dottor Parenzo. Vabbè, adesso che vuole fare? Vuole affondare col coltello? Che cosa vuole fare, Giancarlo? Lei chiama per rompere i coglioni, in pratica. No. Non lo so, No, siete fortissimi, vi seguo sempre. Okay. Vabbè, pubblicità, torniamo tra un attimo, non mollate, siamo ancora qui, c'è un sacco di roba. Ma che piacere sentirvi, ma voi siete dei fenomeni. La Zanzara. Non mi moleste moschito. Non mi moleste moschito. Ma avete rimesso di nuovo l'ore, eccola qua. Signora, si è calmata oppure no? Si è calmata o no? Non guardi che io sono sempre calma, sa? Ha visto Parenzo? Appena detto la Santanchè divide. Il solito lecca culo comunista, no? Perché a loro se non gli lecchi il culo non ci stanno, ha capito? I comunisti vogliono che tu gli lecchi il culo. Col cazzo che la Santanchè ti lecca il culo. Ma lei da dove è uscita fuori, signora Lores? Perché utilizza questa terminologia da zanzara? Ma guardi, ascoltando voi ho imparato tutti i vocaboli possibili e immaginabili. Adesso non ci dia anche questa responsabilità. Non ci dia anche questa responsabilità. Lei è il nano, che cazzo di trasmissione fa quello là? Che mi fa venire il nervoso. Riesco 2 minuti a guardarlo, poi devo cambiare perché mi fa innervosire da matti proprio. Perché? Ma come fa? Ma non è capace di tenere su una... fa confusione, parlano a sproposito, non riesce a farli intervenire al momento giusto. Ma comunque lei è un po' malata, signora Lores. Vabbè, no, me l'ha già detto prima. Ma lei ce l'ha una relazione o no? Se ce l'ho cosa? Ce l'ha una relazione, una storia, un qualcosa, un affetto, qualcuno che le accarezzi. Il cazzo, Cruciani, l'ultima cosa che mi manca è il cazzo. No, vabbè, Lores, su, dai. Ma non si può rispondere così. Ma siamo sulla radio di Confindustria. Radio di Confindustria. Lei quando sente nominare il cazzo ci gode. Ma non è vero. Ma non dica così che poi mi fa cacciare sul serio, signora Lores. Lei è felicissimo. Ma non è vero, non è vero. Quando sentite nominare il cazzo vi si rizza tutto lì. Ormai sono arrivata a questa conclusione. È impazzita, ma di che stiamo parlando? Di cazzo, va bene? Ma lei è proprio avvelenata, No, non sono avvelenata. Sì, come no? Guardi, sa cosa? Mi dica. Mi piacerebbe parlare con lei di tutti i problemi, con lei. Ma quali problemi? Noi italiani vorremmo... Ma lei non... Ma a me non me ne frega niente. A lei appunto non gliene frega niente. Figurarsi a noi cosa ci interessa del cazzo suo e di cui... Ma di no, ma questo no, ma ecco. Lei non deve essere interessata a queste cose qua. Però lei... Comunque guardi, ma perché c'ha sempre questa parola in bocca? Perché c'ha sempre questa parola? Ma perché mi piace averlo in bocca? Siete adrenalinici, vi fate incazzare tutte le sere da morire. Sì. Ascolto dalla mattina alle 6:30 a Milan, poi finché posso perché qualcosa lavoro in più. Beh, certo, poco e però. Concludo poco. La giornata, concludo Radio 24 con voi. Sì. E sono talmente incazzata dopo che solo sentir nominare un cazzo non ce la faccio proprio, ha capito? Ma quanti anni ha lei? Quanti anni? 63 anni. Ah, vabbè, 63 anni. Però a 63 anni ancora. Beh, non creda, Cruciani, non creda. Cioè, in che senso, creda. Scusi? Le do punti se vuole, capito? Dice? Dice? Sì. Ma è fidanzata lei o no? Ce l'ha un affetto? Vedova, un affetto. Vedova, vabbè, vedova, sì, vedo che c'è. Quello sì, è sì, ma non... È roba passata. Da quando è che vedova, scusi, signora Lores? 7 anni. Vabbè, 7 anni. 7 anni. 7 anni. È andato ormai, no? Cioè, lei ha recuperato, spero. Dato che si esprime in questo modo e parla in questo modo, avrà recuperato. Cioè, avrà superato questo momento difficile, o no? Io lo dico con affetto, eh. Sì, ho superato. L'abbraccio fortissimo. Mi raccomando, non parli in questo modo, però. Non vale la pena parlare in questo modo, no? Non parlare in questo modo. Ma io non parlo da lei. Ma io sono autorizzato, è diverso. Quando sentirò che lei si comporta civilmente con le persone. Io sono autorizzato, ma lei. Telefono, allora mi ma lei prima ha detto che quelli di sinistra sono tutti froci, ha capito o no? Ma sì. Ma come lo sa? Perché hanno il cervello procio, va bene? Vabbè, ma perché dai, su. Perché uno non sarebbe di sinistra, perché sinistra, i sinistrosi, la sinistra, cioè pensare in quella maniera lì è una patologia. Ma non esiste. Ma perché dovrebbero essere malati, tutti problemi? Ma che sono? Ma è lei malata? È lei bagata in testa a 63 anni? Va bene, l'ha già detto Cruciani, cambio disco. Dai, su. Però quelli che vi telefonano sono malati, va bene? Lei compresa? Sto aspettando la sirena. Buonanotte Cruciani, buona continuazione. Lei è un po' malato o no? Si sente no, un po' malato? No, di più. Ma si vede, si sfoga, no? Ma no, ma che si vede? Si sente? Si vede, si sente. Sono tutto incazzata io. Nera. E come mai? Con chi? Aspetti un attimo, siamo tutti incazzati. Ma con la vita? Con chi è incazzata? Con la vita lei? Con chi è incazzata? No, guardi, la mia vita è stupenda. Sono incazzata con questa Italia del cazzo. Ah! Ho sentito Milan stamattina che a un vigile ha dato la multa, cioè no, l'hanno condannato a pagare 1.000 euro perché ha detto Italia di merda. Vabbè, no, quello l'abbiamo detto pure noi ieri, l'abbiamo Italia detto pure. Di merda 1.000 volte, va bene? Italia di merda. Ma si faccia condannare volte. Anche lei, si faccia condannare. Ma non me ne frega un cazzo, guardi. Dica forte, l'Italia è un paese di merda. L'Italia è un paese di merda, traffico. Va bene? Ciao. Occhio che stiamo degenerando, eh. La Zanzara. La zanzarita tormenta la mia noche, pasa en blanco, mañana yo soy stanco como una muchachita. Francesca da Napoli, buonasera Francesca, dica. Ciao Peppe, allora la Santanchè alla vicepresidenza della Camera è un attentato alla Costituzione. Ma quale attentato? Ma sì, quando mai? Perché lei ha detto che il PD le fa vomitare e ora si lamenta che il PD non la voglia votare. Ci ha insultato di continuo gli altri partiti e ora vuole che gli altri partiti la votino. Ma che dice tribunali. Il Partito Democratico sta con il PDL, il capo del PDL, sì. Berlusconi, condannato più volte, come sapete, pure per prostituzione minorile. Ma di che parliamo? Di cosa parliamo? È una carica, è una carica. Determinate cariche si scelgono. Ma non è vero. Anche in base alle persone. Ma perché la Bindi che era moderata? Vabbè, ma che c'entra? Adesso si deve decidere in che modo Francesca, il punto fondamentale no, ma quello lo decide il PDL in quelle cariche lì, non è che uno può decidere quello va bene e quello va male. Anche il PDL votò la Bindi, evidentemente vicepresidente della Camera quando fu, no? Cioè mi pare evidente. Però in questo caso lei è una fascista e ma che fascista, ma quando mai? Ma anche se uno ha detto che è stato fascista, che sono fascista eccetera, ma voi ve la vedete la Santa che è fascista? Adesso l'ha detto da noi sì, pomicino. Ma non è vero, ma quale fascista? Allora, il punto è questo, dai, su. È che lei attacca di continuo l'altra parte. E allora? Perché gli altri che fanno? Perché gli altri allora se non le piacciono che non andasse a fare il vicepresidente delle ma perché gli altri cosa fanno? Scusi Francesca, gli altri cosa cazzo fanno? Ma appunto non vogliono diventare però vicepresidenti della Camera. Ma non è vero, la Bindi è stata vicepresidente della Camera e dice che Berlusconi è un criminale, ha detto più volte che è uno che non deve stare nelle istituzioni, allora è la stessa cosa, dai. Sì, ma attualmente no, attualmente, vabbè, attualmente no, che c'entra, è stata vicepresidente della Camera. Attualmente stanno le larghe intese. Guardi, se andiamo a fare l'elenco di tutti i vicepresidenti della Camera, troveremo sicuramente qualcuno che l'ha detta grossa o che ne ha dette di cotte e di crude, per cui... Però è il punto è che è un ruolo istituzionale, lei è contro le istituzioni. Ma che ne ma chi te l'ha detto? Il tribunale di Milano a dire che la magistratura fa schifo ed è corrotta. Vabbè, allora in che modo può garantire un'istituzione? Ma chi una garantire? Il vicepresidente della Camera, la maggior parte del tempo non fanno nulla questi qua, passano le carte, poi ogni tanto presiedono, ogni tanto presiedono e vabbè, insomma, che sarà mai, su. Vabbè, comunque io sono contraria. Poi, vabbè, lei è contraria perché gli sta sul cazzo la Santanchè, diciamo la verità, questo è il punto. È un motivo. No, ma è l'unico motivo, perché le sta antipatica la Santanchè, perché lei odia la Santanchè, probabilmente la Santanchè no, odia ma lei. Io non la odio. Sì, non la può vedere, la dica tutto, non la può vedere, la piglierebbe a schiaffi, le scuderebbe, se potesse la ammazzerebbe. Ma sì, perché lei è un po' insopportabile. Lei non deve tirare la fuori. Sì. Paese, vabbè, secondo me. Lei no, però lei dovrebbe tirare fuori quello che pensa, perché io veramente quando sento qualcuno parlare della Santanchè esce fuori il peggio, allora sì. Tiratelo fuori sto peggio. mi fa schifo la Santanchè, ti devo dire, è una battuta e mi sta sulle palle. Viva la, viva la sincerità, beh, è così. Sono sincera, è insopportabile, la fa vedere la mattina, va a fare trekking sulla spiaggia, si mantiene. Ma qual è il problema, Francesca? Se lei, se c'è, lei c'ha la panza, mica è colpa della Santanchè. No, cioè, lo so, però dico io, come fai a rappresentare la gente che si muore di fame e il popolo che dici che poi fa la destra sociale lei, quando lei, tu sei miliardaria? E lei sicuramente, lei sicuramente c'ha la pancia, Francesca, sicuro. No, guardi, io no, non è questo il punto. Il cioè, punto è che lei è invidiosa, lei è invidiosa, lei è invidiosa perché la Santa Che c'ha i soldi, è milionaria, c'ha le case belle, gli uomini belli non, forse non ma si può no, dire, comunque va in spiaggia no, a fare fitness. Molto più bella. Francesca, lei è invidiosa o comunque non sopporta il fatto che una persona sia fotografata mentre si trucca, mentre va a fare no, fitness vabbè, sulla spiaggia. Il punto è che si sta trasformando tutto in una da chi, come se la politica adesso è diventata comunque, una pagina di chi o top model. Vabbè, la politica è anche questo, si arrende, è anche questo, è anche, so, questo. È anche questo, ma a me, io una vicepresidente della Camera come Santanchè non la piace, vuole perché gli fa schifo, ma che, ecco qua, è stato antipatico. L'abbraccio fortissimo perché è stata sincera, l'abbraccio. Enrico ciao, da Modena, sei bellissimo, ma vai, vai. Enrico da Modena, Cruciani. Cruciani ha timbrato il cartellino col pistolotto contro la Boldrini, bravo. Chi? Bravo Cruciani, lei l'ha timbrato. Ma io il pistolotto lo faccio quando serve. Ma no, ma lei è uno così, diciamo che è un cortigiano del XX secolo. Che sta dicendo? Che cosa sarei io? Lei è un cortigiano del XX secolo. Un cortigiano del XX secolo. Lo diceva anche Montanelli che... Ancora con sto Montanelli, ma non mi rompete i coglioni con Montanelli, Enrico, su, non mi rompete i coglioni. Ma lei non fa l'elogio della giungla economica, no? Lei lo fa l'elogio della giungla economica, sì, perché sì, in realtà non è un uomo libero, perché se lei fosse un uomo libero non lo farebbe l'elogio della giungla economica. Io non sono un uomo libero, e da chi sarei? Lei sa che troverebbe sempre un principe da fare il cortigiano, capisci? Scusi, chi sarebbe il mio principe? Dato che io sono un cortigiano, devo servire qualcuno, chi sarebbe il mio principe, scusi? Il potere. Il mio principe. Ma guardi solo anche il suo comportamento con il Movimento 5 Stelle, c'è tutto il sistema informazione italiana contro, perché hanno dato ordine di picchiare contro. Ma quale ordine? Ma io non mi faccio dare ordini da nessuno, amico. Non mi faccio dare ordini da nessuno, Enrico. Se li fa dare lei gli ordini, ha capito o no? Che se li fa dare lei gli ordini. Io a differenza di lei sono un uomo libero, lei non è un uomo ma libero. Io sono più libero di lei, vogliamo scommettere? Perché lei per mantenersi deve fare il cortigiano. Ma lo fa lei il cortigiano di qualcuno? Lo fa lei il cortigiano di qualcuno, ha capito? Se lei fosse un uomo libero non lo farebbe. Io sono molto della giungla economica. Ma fa la faccia finita, basta questa storia. Ve lo dico io. Ma che dice? Che dice? Uno perché è più liberista dei liberisti italiani è un cortigiano. Cortigiano di chi poi? Scusi, cortigiano di chi? Cortigiano del potere in generale. Del potere. I cortigiani al tempo del principe nel Rinascimento. Ma perché dice? Ma perché le è venuta in mente questa stupidaggine totale? Ma non è una stupidaggine, me la sta dimostrando tutti i giorni con la sua trasmissione che io ascolto. Lei è un cortigiano intelligente, ma cortigiano è come la gran parte dei giornalisti in Italia. E le ripeto, vabbè, la prova è l'attacco al Movimento 5 Stelle. Che tutta l'informazione. Allora, chi non è col Movimento 5 Stelle è un cortigiano. Vabbè, no, d'accordo. No, però andate a pescare tutte le piccole cose, qua e Grillo di qua e Grillo di là, perché voi avete avuto l'input da qualcuno, dal potere, che si è spaventato del l'input dal potere, ma non dica stupidaggine, l'input dal potere, Enrico. Ma lei non lavorerebbe, se lei non fosse un cortigiano, non lavorerebbe. Ma lei che lavoro fa? Scusi, grande professore, maestro. Io faccio l'operaio. L'operaio, benissimo. Dunque, turni di notte, è dipendente da qualcuno anche lei? Sono dipendente anch'io, però io... Oh, lei è dipendente da qualcuno. A differenza di lei, quando ho fatto il mio lavoro, io posso fare il mio lavoro da uomo libero. Ma lei no. Anch'io, non si preoccupi, no. Non si preoccupi. Non mi venga a dare lezioni di libertà, Enrico. L'abbraccio forte, arrivederci. Saluto. Luigi Bisignani, ieri alla Zanzara. Il Papa a Lampedusa, arriveranno frotte dei migrati. Un Bisignani quasi leghista. L'immagine di Papa Francesco a Lampedusa, che noi vedremo lunedì sera, sarà un'immagine fantastica, che piacerà alla Boldrini, che piacerà a tutti. Però? E piacerà soprattutto a tutti quei poveri disperati nordafricani che stanno lì, rifugiati dalla Siria, dalla Libia, dalla Tunisia, e che verranno tutti in Italia perché vedono il Papa che li accoglie. Berlusconi sta messo peggio di Craxi. Secondo me sta messo molto peggio. Se peggio io, di Craxi? Sì, come vicenda giudiziaria sicuramente sì, perché è praticamente circondato. Se io potessi consigliarmi, gli direi di lasciar perdere il Parlamento. Cioè di mettersi da parlamentare? Di mettersi da parlamentare, presentarsi al suo popolo che lo ama, sì, non passare dalla tagliola dell'ineleggibilità come vogliono far passare, e dire: io sono il capo politico di un grande gruppo che mi viene appresso. E poi John Elkann, furbetto del quartierino di Torino, questo è forte, eh? Se chiunque altro, Berlusconi, avesse fatto quello che ha fatto Elkann, mi sembra un po', adesso se lo diciamo per carità non ridiranno tutti, ma una specie di furbetto del quartierino di Torino. Addirittura. Ha comprato i diritti, ha fatto questa operazione, devo dire copiando un po' il nonno, approfittando di una situazione, ha preso i diritti a 4 lire e poi ha chiamato Napolitano, che non si capisce perché, così come il nonno approfittò della vicenda P2, sì, per praticamente... Soffiare alla famiglia Rizzoli. Beh, approfittò. Approfittò, diciamo la verità, approfittò. Paolo da Macerata, buonasera Paolo. Parenzo! Che c'è? Che c'è? Querelato! Ma querelato no! No, ma querelato no lui, querelato coso, Busi. Anche lui! Ma quando mai? È un eroe disperato della cultura dell'idiozia, Parenzo! Ma che cos'è un eroe disperato della cultura dell'idiozia? Che vuol dire? È un eroe disperato! Ma i magistrati lo condanneranno! Questa sera non so se riuscirà vivo dagli studi. Perché Paolo? Ci sarà qualcuno che gli farà le feste. Ma che matto, veramente? Guarda che chiamo la polizia. No, non è vero, scherziamo. Già l'altra sera qualcuno è venuto qua sotto gli studi, adesso questa la racconto. È venuto un tizio sotto gli studi qui di Radio 24, si è presentato alla reception di Via Monterosa 91, dalle gentilissime signorine che stanno qui ai centralini, è venuto sotto e ha detto: cerco Cruciani, gli voglio tagliare la gola, e faceva il gesto così, il gesto col coltello sulla gola. Abbiamo dovuto chiamare la sicurezza, la polizia, tutti, è stato segnalato, ma aspettava qua sotto questo signore qua. Fuori da una macchina elegantissima, peraltro, una specie di Audi fiammante, borsa. La Zanzara. Siamo qui, vivi e vegeti, nonostante quel maledetto non ci sia oggi. Non c'è, perché deve fare l'ultima puntata di quella minchia di programma della Rai. Andrea da Roma, buonasera, Andrea. Andrea, buonasera dottor Cruciani. Buonasera. Io sono più felice di quando mi buttavo col deltaplano 20 o 30 anni fa, perché lei esiste. E sono anche bisessuale, e quindi voglio dire, vorrei dire che io di solito quando mi innamoro delle persone, come stasera di lei, per come si è portato particolarmente stasera, ho bisogno di vederle, ma io stasera le darei un bacio con la lingua in bocca. Beh, così se ne può anche fare a meno, se ne può quello anche... che ha detto, perché io oggi avevo letto questa cosa del paese di merda che lei amplifica. No, oggi io non ho amplificato per niente, no? ho detto che già ieri l'avevamo detto. Lei domani, con mia grande gioia, ho le mie opinioni, ma non le posso dire perché sennò me la fanno pagare. Io domani mattina vado col nastro della trasmissione, lo porto alla Procura della Repubblica, sì, e la denuncio per istigazione a vilipendio della nazione. Bravo, lo faccio. Lei l'ha messo in conto, le piace, non le piace, le dispiace se lo faccio, mi dà un po' di attica. Ma lei può fare quello che vuole, lei può denunciare chiunque, se lo vuole fare per una questione di provocazione va benissimo, le do la mia benedizione, assolutamente. Io non l'ho detto l'Italia paese di merda, tra l'altro, l'ha detto la signora Lores, che chiamava da Vicenza, se non sbaglio, signora Lores, la quale ha detto l'Italia è un paese di merda, ma io non lo dico, anzi, secondo me l'Italia non è affatto un paese di merda. Dopodiché essere puniti dalla Cassazione per 1.000 euro, come è successo a quel tizio l'altro giorno, è una vergogna, perché si può dire tranquillamente: l'Italia è un paese di merda. È un'opinione ridicola, secondo me, però ha diritto di esistere anche questa opinione, insomma, anche questa frase. Lei metterebbe eventualmente in gioco il suo fedina penale per questa cosa? Ma dove sta? Ma io non c'entro niente, io non l'ho detto, ha capito? Cioè, non l'ho detto, Andrea. reato, si chiama, è un reato di istigazione. Ma che stia, ma lei, scusi, innanzitutto abbassi la radio o chiuda la radio, perché non si sente nulla altrimenti, no. Nulla. Adesso l'ho abbassata. Ecco, meno male. Allora. Ma io posso pure essere d'accordo con lei, mica. E però allora, perché deve andare a fare una denuncia? Io muoio dalla gioia che lei provoca in questo modo, perché io che sono un provocatore me l'hanno fatta pagare, domani provocherò in questo modo, ma non è un fatto che ce l'ho con lei, anzi lei mi è meravigliosamente simpatico. Però io spero che lei non se la prenda poi. No, se no, faccia tutte l'avviso di garanzia. Ma che avviso di garanzia? Faccia tutte le denunce che vuole. Grazie. Posso? Sì, vada. Riccardo, provincia di Milano. Pronto? Sì, Riccardo, pronto? Dica. Mi sentite? Sì. Sì. Ciao, buonasera. Io non disturbo solamente perché ho questo pensiero fisso da un sacco di tempo e nessuno a cui poterlo dire. Allora a questo punto ho detto, prima che ne dia nessuno ai colleghi non posso chiaramente dirlo. Diciamolo a tutti in radio, sulla trasmissione, che vabbè. E io sono un avvocato di Milano, quindi lavoro quotidianamente in tribunale a Milano e grazie a Berlusconi il tribunale è pieno di troie. Cioè, in che senso? Questo lei è un avvocato che lavora al Tribunale di Milano, giusto? Sta dicendo io sono un avvocato del Foro di Milano. E sta dicendo lavoro... per colpa o per merito di Berlusconi il Tribunale si è riempito di puttane. Esatto. Cioè di troie. Ma esatto. No, di troie, puttane, chiamiamole come vogliamo. Anzi, il mio pensiero è articolato, perché in realtà pure. Io ho anche... Sì, perché non è solamente dire esteticamente, chiaramente è un fatto estetico che è innegabile, sognoso. Vabbè, ma semplicemente per il fatto che ci sono dei processi in corso dove vengono queste ragazze a testimoniare. Certo, certo, ma il problema allora, non sta lì. Qual è il problema? Il problema è che si atteggiano da fottute dive. Ma bisogna lei, spiegare a ma queste lei persone... che gliene frega, scusi. Ma me ne frega, perché quando io devo deviare il fatto per è fare che lei, i il fatto... percorsi nelle cancelle, mi lasci parlare? Sì, stia calmo, stia tranquillo. No, scusi, è uno sfogo, mi perdoni. Non capito, ma è uno sfogo serio? Ma io pensavo che lei stesse scherzando prima. No, che scherzo? Io sono serissimo. Ma non capito, cioè, qual è il problema? Vengono là ogni tanto... Il problema è che non si possono vedere, cioè sono belle, ok? Sono bellissime, sì. Quindi esteticamente mi piace girare la mattina, eccetera. A parte che comunque è difficile lavorare perché sono vestite... Cioè, ovviamente sono lì perché sono delle vere puttane, quindi sono vestite da puttane. Ma non è vero, su. No, sono delle ragazze belle, spregiudicate. Spregiudicate, certo, le ho conosciute, le conosco anche. Qual è il problema? Ho capito, ma non sono proprio le ragazze belle raffinate, cioè sono dei puttanoni. Ma ho capito, ma che vuol dire? Ma che vuol dire dei puttanoni? Ma... Da un punto di vista estetico mi vanno benissimo ed è bello anche lavorare così, viene anche ogni tanto un po' duro, però non è questo il problema. Il problema è che queste ragazze vengono aggredite da fotografi, camminano facendo sfilate. Ma lei è invidioso, No, non è che sono invidioso, è che dico, ma diamo il giusto peso alle cose, te pigli 40.000 euro al mese. Ma che gliene frega, a parte che non è vero che prendono 40.000 euro al mese, cioè 2.500 al massimo, alcune prendono 2.500 da Berlusconi. Assurdo, permetti, io sono stato in udienza, ho sentito le dichiarazioni, cioè... non ti dico di chi, ma lo sentite. Ma che sei quindi, stato a fare in udienza, scusa? Perché è pubblica, io posso entrare, sono un avvocato. Non c'è un cazzo da fare lì al tribunale? Non c'avevo un cazzo da fare, bravissimo. Oltretutto, cioè, scusami, cioè, tu non entreresti con tutte le udienze del cazzo che mi faccio io, curiosare una volta sulle 700.000 udienze di Berlusconi con le zoccole? Sì, quello è vero, sì, tutta la vita. Ecco. Sì. Assolutamente, sì. Ma perché sei così avvelenato su questo? Ma che ti frega perché, te se queste ragazze che tu chiami zoccole, che tu chiami puttane, che tu chiami non so come? Sono. Ma quando mai? Sono delle ragazze spregiudicate che col loro corpo fanno quello che vogliono. La libertà, ha capito Riccardo? Hai capito? Diamoci del tu. La libertà, la libertà. Perché dentro c'è un giudizio morale, secondo te, nel chiamarle puttane? Ma no, sì, c'è un giudizio morale, sì, esattamente. Ragazze spregiudicate, c'è un giudizio morale uguale. No, sono spregiudicate. Con il loro corpo fanno, detto, ergo Wikipedia, sono puttane. Cioè, le ragazze che spregiudicate con il loro corpo fanno quello che vogliono, sono puttane. Scusami, chiamale come ti pare, chiamale spregiudicate, chiamale puttane, ma questo sono. No? Ma che puttane? Ma tu quando parli di puttane dai poi un giudizio pesante, perché puttane intendi vabbè quelle puttane lì, proprio sbatti lì questo puttane intendo quella che è spregiudicata col suo corpo per migliaia di euro al mese oppure per un tot a una serata, va lì e fa quello che deve fare, spregiudicata col suo corpo, fine. Boh. Non c'è nessun giudizio morale, è ma una come definizione no, scientifica. Come no, vabbè, ma quale sarebbe sti incubo al Tribunale di Milano allora? Quale sarebbe questo? L'incubo è che le vedi uscire ed entrare da aule in cui dichiarano essenzialmente che hanno preso soldi per far sesso, quindi niente di cui vantarsi, sì. Lo farei anch'io, te lo giuro, se potessi sarebbe più facile per vivere, potessi farlo io lo farei. Allora? Si atteggiano a dive, cioè nel senso... Ma si atteggiano a dive? Io non capisco quello che... Il punto fondamentale è che Riccardo, lei vorrebbe stare insieme a queste ragazze, ma siccome sa di non poterci riuscire, tiro del culo. Questa... Scusami, ma cadi in contraddizione, sono puttane, gli do i soldi, ci riesco. Ma, che cazzo di problema ma c'è? Invece no, ma chi ce va con te? Al limite quelli vogliono Le 2-3 mila euro, Riccardo, su, dai. Mario, lascia perdere, cioè io potrei avere una ragazza così a prescindere dai soldi. Se dovessi addirittura pagarla, ciao, ce ne ho quante ne voglio, potrei essere come Berlusconi se volessi avere quei soldi lì. Ma quando mai, ma quando mai? Mo sei pure ricco, sei pure ricco. No, non sono ricco, infatti mi accontento di quello che trovo, però cioè potrei averle senza dover pagare, figurati pagando, le puoi avere anche tu. Cioè che ci vuole, sono zoccole, paghi e vengono con te, non è questione di vuoi averle, ma non puoi, sei invidioso. Ma non è così, ma non è la prostituzione, ma non è la prostituzione come la intendi tu, è un'altra cosa, la prostituzione ha diverse sfaccettature, non è la prostituzione, queste qua vanno con le persone di potere, le persone ricche, perché regalini, soldi, parti in alcuni show, in posti di lavoro, che è prostituzione questa, la prostituzione è quella della disperazione, io questa la chiamo disperazione, la prostituzione, quell'altra è così... Un modo come un altro per procurarsi da campare, perché anche la prostituzione lo è, però non è che la tratta delle schiave o la prostituzione per strada, quelle con i fuochi o quelle che c'hanno il numero sul giornale, è una cosa un po' diversa. Ah, che fatica, che fatica. Scomparso, è scomparso, non c'è più, non c'è più, è scomparso, si è ridotto nell'ultimo mese e mezzo, speriamo che recuperi da lunedì una larva umana, un cadavere. Noi lo vogliamo ricordare, nonostante il decesso già avvenuto un mese fa eccetera, lo vogliamo ricordare in questo modo. Gaetano Saia? No. Buonasera. Buonasera, buonasera, signor Giuseppe Cruciani, a lei e a tutta la zanzara. È il Pataccaro, il Pataccaro, ma tu l'hai chiamato. L'amico di Cento, perché non glielo dici? Perché non glielo dici le truffe che faceva lei il suo editore Giancaetano? L'amico cosa? L'amico editore Giancaetano, truffatore, diglielo. Io non sono Giancaetano, chi? Se faceva il tuo editore le truffe. Allora, sulla vicenda del giornale che ho diretto, io mi sono dimesso a gennaio. No, vergognati, vergognati, cretino Pataccaro, vergognati, vergognati Pataccaro, Pataccaro cretino. Ma di che state parlando? Sta parlando perché il signor Pederasta Finocchio. Pederasta Finocchio, signor Saia, scusi. Lei mi pagherà la casa. Lei mi pagherà 30 anni di mutuo, Pataccaro. Ascolti, Cascia aveva definito gli uomini in 5 categorie. Uomini. Pataccaro, un attimo. Ruffiani è qua, tu sei papè, non sei neanche nelle 5 categorie di sciaccia. Che cos'è papè? Che vuol dire papè? Papè vuol dire proprio nessuno. Nessuno, scusi, niente, signor Saia, lei è il capo. Io mi sono tirato fuori un'insinuazione gravissima, Pataccaro. Ma nessuno, Pataccaro, sei, scusi. Non è un mio amico, non è un mio amico il dell'editore Caso, non è un mio amico, vergognati, non è un mio amico, vergognati, mi sono dimesso. Ma di che state parlando? Io mi sono dimesso, vergognati. Ma di che state parlando? Sta parlando del mio ex editore, il signor Caso. Ma chi è? Che ha avuto una vicenda giudiziaria non indifferente per un crack clamoroso, una truffa che qual ha fatto è? E io, ex editore del Clandestino, io mi sono dimesso 3 mesi prima che arrestassero quel signore che con me non ha nulla a che fare. Pataccaro, Saia, sei un Pataccaro, allora, vergognati, Pataccaro. Ruffiano pederasta Finocchio. Ma io ti guardo e mi rifaccio la casa, Pataccaro. Dico a mia moglie, allora fai pure questo, Pataccaro, e ti faccio la scorreggia e ti sbianco i capelli, come dici. Se posso qualcun altro, ma lei è la gente biancare, ma lei è il segretario, perché so che ti travesti la sera, ma Parenzo. Scusi, Saia, lei è il segretario del Movimento Sociale Italiano Destra Nazionale. Ma questo è un poveretto. Ma il segretario del Movimento Sociale Italiano Destra Nazionale. Il DM sta per demente nazionale. Che tempi, cari ascoltatori, che tempi, sono finiti. Sono finiti i traffici. La zanzara. Enrico da Roma, Enrico buonasera. Buonasera. Senta, io volevo dire solo una cosa, io la zanzara la sento molto spesso, però sì, ultimamente non la posso più sentire perché Perché? Con tutte le parolacce che si sentono, a me mi danno fastidio, ma non per me. Vabbè, pazienza. Io dico, sono le 7 di sera, io vado a porto mio figlio a casa e in macchina con mio figlio non ne posso far sentire. Gente come quella dei 63 anni, è quella che aveva sempre in bocca, ma mica è colpa mia. Vero, ma mica è colpa mia, abbia pazienza. Lo so perfettamente, ma mettete in bip qualche cosa. Che insomma. Dobbiamo fare? Quella signora era scatenata stasera, mica è colpa mia. Lores, Lores ha fatto indignare, ci ha pure richiamato. Aspetta, Enrico, un attimo solo. Ci ha pure richiamato Lores. Sono qua. Ha sentito che dice Enrico. Enrico, dica qualcosa a Lores. Lasci stare Enrico. No, che lascio stare, Enrico, dica qualcosa a Lores. Lasci stare Enrico, dica che spenga la radio. Non se ne permetta, le 7 di sera. Con i bambini che ascoltano, pure i bambini, specialmente alle 7 di sera che io vado bravo, da qualche parte mi bravo. La trasmissione, lei non può dire parolacce. Ha capito, Lores? Ma sì, ma chi se ne frega? Mi lasci dire una cosa? Ma come chi se ne frega? Questo qua è... Aspetti un attimo, voglio parlare del signore che prima l'ha minacciata. Ma no, ma non io si spero... preoccupi del signore che mi ha minacciato. Ma no, io spero che ci stia ancora ascoltando. Allora... Lei non mi ha istigata, è una cosa che penso da 20 anni, la pensano 50 milioni di italiani. Chi? Che l'Italia è un paese di merda. Ah, quell'altro. Se vuole denunciare, lei non mi ha istigato, io lo penso giorno vabbè, e notte. Vabbè, è una stronzata, però lo pensa giorno e notte perché è una frustrata, evidentemente. Perché va bene, cazzi miei, va bene? Va bene, va bene, a ridaglie. Enrico, no, dica qualcosa a Lores. Ecco, esatto, io solamente questo, non c'ho speranza, mi dispiace per voi, ma... No, no, abbia speranza, abbia... A me mi dispiace. Abbia speranza, dispiace, però... abbia speranza. Non è che ogni sera c'è Lores, anche se Lores è la numero uno, da un certo punto di vista lotta come una leonessa. Però che devo fare io se questa qua è partita per la tangente, Enrico? Ha sentito, no? Sì, ho sentito purtroppo. Vabbè, l'abbraccio forte. Poi perché poi uno gli viene, perché pure io mi arrabbio certe volte. Questo è un po' uno sfogatoio. Grazie. Lo vedi, ecco Marino. Caro Marino Mastrangeli, come stai carissimo? Scusami, l'altro giorno ad Agorama ho fatto una battuta, mica te la sarei presa. Assolutamente no, Giuseppe, ciao a te, ciao a Davide, ciao a tutti i radioascoltatori e alle radioascoltatrici di Radio 24. È già finito il tempo con questa introduzione, scusa Marino, scusa un attimo, ma come vedi le ultime evoluzioni nel tuo ex movimento? Ma ex movimento parlo dal punto di vista parlamentare, so che tu voti sempre come loro, ti senti assolutamente nel movimento, vai in giro con la spilletta del 5 Stelle, eccetera, eccetera. Per cui come vedi le ultime evoluzioni? A proposito, tu la diaria hai restituito come gli altri oppure no? Io ho già dichiarato più volte pubblicamente, visto che la faccenda della diaria l'ho tirata proprio fuori io più di un mese fa, un mese e mezzo fa in una trasmissione, e quindi io nella trasparenza ci credo. Io continuerò a fare quello che sto sempre facendo, e cioè agire e votare insieme ai miei colleghi. Attendo di vedere le 156 ricevute delle 156 bonifici, dei 156 parlamentari del Movimento 5 Stelle. Ho capito, però tanto. Scusami Marino, abbi pazienza. Non puoi dire così, perché non è che puoi aspettare che tutti fanno i bonifici, e se, che ne so, il 20% non li fa? Vedremo. Ma come vedremo? Tu devi essere il primo a dare l'esempio. Non si fa nulla. Ma devi essere il primo. Succede, tanto poi io sono sempre disponibile a qualsiasi intervista, voi mi richiamate e ne riparliamo. Scusa un attimo, Marino, però io dico una cosa. Tu dovresti essere il primo a restituire tutto quello che non hai speso con la diaria. Ma guarda, Giuseppe, quanto hai speso tu? Quanto hai speso? Io ho fatto una campagna elettorale dicendo quello che ha detto anche Beppe Grillo in un paio di occasioni, e cioè, secondo me, tutti i lavoratori italiani devono percepire uno stipendio e degli emolumenti di livello europeo. Io vorrei percepire gli stessi emolumenti di un parlamentare francese, di uno tedesco, cioè, mi stai dicendo che 2.500 euro al mese è poco. Ci sono dei colleghi che vogliono fare beneficenza, come la faccio anche io tutti i giorni, perché essendo il mio volto noto televisivamente, quando vado in giro sul treno Cassino Roma oppure sull'autobus 4064 dalla stazione Termini al Senato, mi fermano degli indigenti, mi chiedono: senatore Mastrangeli, che me lo dà un aiuto? Io metto la mano al portafoglio e faccio quello che posso, quindi ognuno. Marino, mi stai dicendo che tu fai beneficenza per strada con i soldi della Camera, in pratica? No, io certo, da buon ex poliziotto vado in giro con poco denaro contante. Poco, pochissimo, quello che ho, pochissimo. Io offro, però non è quello il problema, non è che io posso risolvere i problemi. Marino, però diciamo la verità, no, insomma. Certo, diciamo la verità, Marino, 2500 euro è poco. Diciamola tutta, perché... Ascolta, parliamoci la verità, Giuseppe. Parliamoci la verità. Non è che possiamo eleggere un parlamentare della Repubblica facendo l'asta al miglior ribasso. Non è che se appunto presenta un candidato a un euro a legislatura, appunto, noi votiamo quello. E poi c'è la Costituzione che lo dice, che i parlamentari debbono percepire un degli emolumenti, anzi delle indennità congrue. Quindi, insomma, cioè, quanto sarebbe lo stipendio giusto, quale sarebbe lo stipendio giusto, quanto sarebbe? 5.000, diciamo, quello che era prima, dai. Basta, guarda, c'è uno studio dell'attuale ministro Giovannini. Vabbè, ma quant'è? Quant'è? Censis, che fece un paio di anni fa, lo portò quasi a conclusione proprio per vedere qual era la media europea. Si completi quello studio e poi. Ma la media europea è molto più alta. Ma è molto più alta. Più saggio da fare. Ma è molto più alta la media, molto più alta rispetto a quella che prendono i grillini. Ma non c'è problema, io penso che un operaio della Fiat, qui io sono di Cassino, che prende 1200 euro, anche lui si deve lamentare se un operaio della Volkswagen in Germania guadagna il doppio. Allora non è che dobbiamo fare l'asta al ribasso, ho capito perfettamente. A dei livelli europei. Senti, visto che ci proclamiamo europei e siamo cofondatori dell'Unione Europea. Ti abbraccio fortissimo, ci sentiamo presto, ci sentiamo presto. Ciao. Buona serata a tutti. Ciao, Gino, provincia di Genova, Gino. Sì. Dica. Le vorrei dire di tutto. Dica. Ma perché tanto non sceglie bene le segretarie. Ma... Gino da dove? Da Santa Margherita Ligure. Primo non sono segretarie, ma sono telefoniste, receptionist, lo dico in inglese. Provincia di? La sua segretaria. Ma che mi hanno detto, Gino, non è la mia segretaria, non faccia lo sbruffone, Gino, su, è una ragazza che lavora al centralino. È una povera ragazza che lavora. Ma sì, la povera sarà lei, povero sarà lei. Povera nel senso di ragazza che... Ma povero sarà lei, si vergogni per quello che dice. Le fate si vergogni lei per come tratta le persone che la chiamano. Ma stia zitto, ma lei tratta male le persone che prendono la sua chiamata. Ha detto povera ragazza nel senso buono. Meno male, allora? Le recepzioniste lì, quei call center lì, li fate lavorare per 2 lire al giorno. Ma che ne sa lei? Che ne sa? Sì, lo so io. Vabbè, lo so. Ci sentiamo lunedì, la richiamo, Gino, segno il suo telefono. Anche Alberto da Firenze e altri, Lunedì 18:30, ciao. E lo dico io perché si vota Berlusconi. Perché ci sono i comunisti. Voteremo sempre merda, perché l'altra merda è molto più puzzona. E sa cosa mi viene in mente a me quando si parla di sinistra? Cosa? Il lato B. Perché? Molto meglio il lato A. Perché sono tutti culattoni. E io sono malata di mente, quelli sono malati di culo, va bene? Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Radio 24. La passione si sente.